acquisiamo un telefono. Io ho guardato il prezzo. Perché non penso. Ho messo la 11 o l'ho mirato la sua. Ma l'ho rinominato? La 11 che c'era? Vedi, sembra che la perché io quando prendo scarico di tensione. Vabbè, comunque ho rimesso la 11 e ho rinominato la tua che invece la 12, così non mi confondete. Però l'ho messa ieri. Quindi c'è il 20 invece sì. 20 invece adesso già quella di ieri. Sì? Sì, avevo preso le 8 e questo è una cosa per il triennio, cioè per niente. Non ci sono dispense di Moderna. Perché dispense? Infatti c'è qualche dispensa o qualcos'altro? Sì, sì, c'è questo qua di Moderna, ma già su questo. È lì troppo tale. E poi lì c'è il avete domande da fare? Oltre a questa, a questo incubo di dispense, che di fatto non ci sono dispense per Moderna. Prendiamo e facciamo una bibliografia, una biografia, con una piccola bibliografia di Michelangelo, ci viene una storia infinita, tre righe se volete, proprio tre, giusto per collocarlo. Scusate, questo credo preoccupi tutti. Come impostare questa vostra ricerca per l'esame? Mi chiedeva se è necessario inserire la biografia dell'artista rinascimentale italiano per il paragone. Tre righe, tre, giusto per ambientarlo storicamente e geograficamente, perché ovviamente se ha operato a Firenze o a Venezia sarà di un certo tipo, se ha operato a Napoli è un'altra situazione. Quindi giusto una paginetta di confronto tra un'opera di rinascimentale e l'opera di Bosch. Esatto, esatto. Però se l'opera di Bosch è stata già trattata... Va bene. Va bene. Okay. L'importante è che la comparazione non sia con un'opera di cui abbiamo già parlato a lezione. Quello perché sì, quello che è la parte italiana. L'opera di Bosch va bene perché può anche aiutarvi, no? Partiamo da una cosa nota perché avete visto non è uno scherzo Bosch. Però l'opera italiana io avrei piacere che proprio non fosse stata trattata a lezione, se no capite che chi arriva prima è facilitato, no? Io vorrei invece che tutti aveste la stessa situazione in sede d'esame, non che qualcuno sia facilitato e qualcuno no. Per cui io preferisco, anzi voglio che sia un'opera non citata a lezione, o solo citata ma non analizzata, perché sennò il lavoro è già fatto, no, certo. E non sarebbe corretto nei confronti di chi invece poi il lavoro lo fa per intero, che non mi dispiacerebbe. Si riferisse a un particolare di un'opera di Bosch, solo un particolare, benissimo. Solo una parte di un trittico, ma certo, anche solo un pannello di un trittico o solo un elemento, o la figura di un personaggio particolare, che so, Lucifero, un esempio, no? facendo una preparazione. Sto venendo a pensare a tutta una serie di opere, tutta una serie di biografie, però... Impazzite? Sì. No. Meglio di tutto. Avete già il corso per impazzire, più che sufficiente. La settimana, due settimane fa, parlando della tavola dei peccati capitali, dei sette peccati capitali e i tre novissimi. E oggi riprendiamo proprio di lì. E se non ricordo male, ci eravamo lasciati proprio sul peccato di vanità, la superbia. Lo riprendiamo, volevo farvi vedere un particolare. Eccolo qui, scusate. Ma con la vanità aveva fatto un paragone con Mandy, giusto? Con? Mandy, no. Memling? Memling. Sì, il certo. Trittico? Il trittico, sì. Posso rivederlo? No? Sì. Prima o poi mi farò pagare per queste cose. Ma io proprio le seguo da sola a casa e... Gravissimo. Non riesco a seguire le lezioni. Ecco qui. Ah, ok. La vanità è centrale, eh? Mm-hmm. Morte e Lucifero. Oh, la superbia, o vanità, è la stessa cosa. Se vi ricordate l'avevamo vista e avevamo appunto lo specchio retto da questo diavolo, no? Che si poneva così, a farle anche da controcanto, visto che indossa questo diavolo un copricapo che è della stessa fattura. Volevo farvi vedere, ed è quasi contemporanea, una miniatura italiana tratta dal Libro delle Ore del 1480 di un capolettera. Sapete cos'è un capolettera in una miniatura? Per cui è la lettera che inizia la pagina o che inizia un nuovo argomento. Per separarla appunto dal resto del testo viene solitamente decorata o realizzata con una dimensione maggiore rispetto al manoscritto. La cosa interessante che ribadisce il fatto che vanità o superbia e donna che si specchi vanno sempre di pari passo, anzi è quasi un topos, è quasi una regola, ce lo dimostra anche questo incipit, questo capolettera, dove, se notate, a decorare l'interno di questa D, realizzato con una fenice, perché questo è il becco tipico di una fenice con i colori attribuiti nel 400 alla fenice, rosso e blu, e anche la perla ci parla un po' di fenice, l'idea della resurrezione, del ritornare alla vita, eccetera. Abbiamo una donna agghindata di tutto punto, morta, perché abbiamo lo scheletro di una donna che si sta specchiando, come se volesse anche dopo la morte abbellirsi, essere vezzosa. Guardate che poi nella letteratura, e questa è una cosa divertente, quest'immagine passerà alla zitella, a colei che non si è mai sposata e che in tarda età ancora va alle feste vestita come se fosse una ragazzina per trovare marito. Questo, pensate, noi lo troviamo nella letteratura, anche nella letteratura musicata, fino alla metà del 1600 e solitamente in testi legati al carnevale, al carnasciale. Il che significa che questa immagine, questa idea resta legata proprio a, diciamo, una mancanza di tatto nell'età che si ha, il fatto di volersi mettere in mostra in un momento in cui buon senso vorrebbe la pacatezza, no? Perlomeno non essere ridicoli con fiocchi, eccessi di gioielli, stoffe dai colori sgargianti. Poi guardate che oggi noi ragioniamo in un determinato modo, ma più indietro andiamo nel tempo, più l'idea che ad ogni età corrispondano determinati cliché è radicata, è sempre più radicata più andiamo indietro nel tempo. Per cui già a 35 anni, massimo 40, una donna avrebbe dovuto smettere determinati colori e indossare colori bassi, anche perché solitamente a 40 anni si era nonne, o quasi, anzi no, si era decisamente nonne a 40 anni. Quindi i colori dovevano essere colori scuri e soprattutto alcuni gioielli non andavano più indossati se non in determinate situazioni. Il che corrisponde anche a determinate acconciature per i capelli. E questa è un'acconciatura da ragazza, per cui questa enorme cuffia di perle gemmate è, diciamo, un copricapo che induce ad attirare l'attenzione. Rientra nei canoni, no, di colei che si fa bella per indurre gli uomini ad innamorarsi di lei. Non si fa dopo una certa età, o perlomeno non si faceva. Vi ripeto, oggi fortunatamente tutto è cambiato, per cui fortunatamente ad ogni età ognuno di noi può fare quello che gli pare, o quasi. Ovviamente questo non è nel 1400. Passo successivo. La lussuria. Oh, rivediamo per un istante, se non vi spiace, l'opera, così la ricordiamo. Eccola qui. Ecco, e qui questo grande disco. Noi abbiamo visto Ira e Vanità. Adesso vediamo il passo successivo, che è la lussuria. E qui dobbiamo un po' capirla, perché non è così immediata, eh? Noi ci aspetteremo, che so, una scena con nudità, qualche cosa di spinto, visto che è la lussuria. Ma vi ripeto, siamo a fine 1400, per cui la sessualità è comunque qualche cosa di privato. E la sessualità passa soprattutto attraverso la parola, la battuta, l'atteggiamento. Non è una cosa così smaccata come sarebbe oggi. Per cui dobbiamo proprio cercarla. E ormai dovrebbe esserci abbastanza semplice riconoscerla. Ciliegie, in questo vassoio, una pesca. Dovrei dire pesca, ma non mi viene, perdonatemi. Vino, perché questa è un'ampolla che contiene vino. E facciamo attenzione. Allora, la coppia che con chiarezza ha un approccio, perlomeno lui sta facendo delle avance a lei, è quella dentro la tenda, che noi dovremmo immaginare essere una tenda chiusa. E guardate che volutamente questa è la fine della narrazione. Noi dovremmo immaginare un andamento quasi a spirale di quello che sta accadendo per riuscire a capire la situazione. Per cui noi dobbiamo immaginare una coppia che si sia incontrato in una situazione di divertimento. Abbiamo un giullare con le natiche scoperte. È tipico, l'abbiamo già detto tante volte, no? È tipica la nudità intesa proprio come volgarità da parte del giullare, perché fa ridere da sempre. Altrimenti certi comici, anche torinesi, al femminile non avrebbero tutto questo successo, no? In TV, la sera, su determinati canali. La battuta con il doppio senso erotico funziona sempre. Funziona oggi, funzionava anche nel 1400. L'erotismo è diverso nel 1400. Ecco che il giullare può scoprirsi una natica. Oggi, se ci pensate, nella nostra società scoprirsi una natica non è corretto, ma girare nudi lo è. No? Se durante una trasmissione uno abbassa i pantaloni e fa vedere le natiche, ah, che scandalo! Ma la valletta che è con le natiche di fuori, perché le hanno fatto indossare un costume iper mega inesistente, quella va benissimo, non la nota nessuno. Non funzionava così nel 1400. Nudità era nudità uguale per uomini e donne, cambiava il ruolo. Anche per noi cambia il ruolo. La valletta, che cos'è? È un altro nome che si dà alla prostituzione, ma quello che noi vediamo è prostituzione allo stato puro. È che a quella noi ci siamo abituati e diamo il nome di valletta, o letterina, o bim bum bam. Però, ragazzi, quello è, d'accordo? Nel 1400 invece passava per il giullare, che poteva denudarsi alcune parti del corpo, solitamente le natiche, e la cosa era incredibilmente divertente. Giullare che dice sciocchezze, naturalmente, no? Che è un fluax, per cui parla e parla e parla e dice scemenze, e ha lo scettro della stupidità, con appunto una testa di giullare che sta all'apice di quello che dovrebbe essere invece uno scettro reale, regale. Solitamente lo scettro del giullare è in legno. Ma se vi ricordate, noi l'abbiamo già visto nella Nave dei Folli. Perché lo scettro di legno è il non potere, no? È come dire che uno ha un trono di legno, non sta regnando. Il trono di legno non ha potere, non ha autorità. Come vuole la tradizione, questo giullare, dicendo scemenze, viene percosso, viene picchiato da un servo. Il giullare è un servo alla fine, no? Ma viene picchiato con un bastone che di fatto è un mestolo, il che ci fa ricordare che buona parte dei buffoni di corte usciva dalle cucine di corte. Anzi, sappiate che molto probabilmente la storia dell'attore rinascimentale è legata a doppio filo alla cucina. Perché spesso erano i garzoni di cucina, i ragazzi che sbucciavano le patate, che lavavano le verdure, che intrattenevano la famiglia aristocratica imparando a memoria delle parti, recitando. Sempre gli attori, fino alla Rivoluzione francese, sono stati dei servi. Non a caso poi, in ambito inglese, vestivano addirittura le giubbe del casato al quale appartenevano. Per cui il fatto che sia un servitore di cucina a picchiare il giullare non è una stranezza, ci ricorda questa stretta affinità. Le oscenità, vi ripeto, del giullare sono quasi sempre a sfondo erotico, perché fa ridere, chiunque. È una festa. Noi abbiamo tre strumenti a terra, sono già stati suonati. Abbiamo un tamburino, un tamburo che si suona, vedete, con un battente in metallo. Abbiamo un flauto diritto, quello che noi a scuola chiamiamo flauto dolce, e abbiamo una piccola cetra, un'arpa piccola. Tre strumenti che con grande facilità si trovano di proprietà di ogni famiglia aristocratica o di ogni famiglia ricca. In ambito delle Fiandre lo troviamo anche nelle case dei mercanti e spesso anche nelle case dei pittori, perché servono come modello per essere copiati. Vermeer possedeva clavicembali e viole da gamba, per esempio, e li vediamo dipinti più volte all'interno dei suoi quadri, li ha di proprietà. Perché ne sono sicura? Perché sono sempre gli stessi strumenti, e questo è assolutamente inconfondibile, soprattutto per quel che riguarda gli archi. Quindi questi sono strumenti che sono già stati usati, è quello che resta di una festa, dopo la festa. Lo stesso vale per il cibo e le bevande che sono sul tavolo, sulla bottiglia, per il vino che è posata a terra. Abbiamo una dama, che non è una serva proprio per come è vestita, una dama che sta servendo del vino ad un gentiluomo che è sdraiato a terra. Ricorda un po' i picnic, no? Le colazioni in giardino. Ma la colazione in giardino spesso terminava con un dopo cena, nella nostra accezione. Cioè, solitamente dopo queste merende c'è caldo, si è in campagna, ci si toglie qualche cosa. È il preludio di un incontro amoroso, quasi sempre. Oppure c'è la grande famiglia che si ritrova in questo enorme picnic con le coperte a terra e due così si distraggono un attimo, portano con sé una coperta, vanno a prendere il sole un po' più in là. Era un gioco che rientrava nella seduzione dell'epoca, che resterà fino alla fine del 1800. Dovrei dire fino a oggi? Diciamo fino a oggi. E quello che vediamo dietro a questa coppia è appunto la consumazione di questo incontro. Non a caso è dentro la tenda. Ma fate attenzione, perché da come è posizionata la tenda, noi capiamo che è sempre la stessa situazione. Sono loro che sono stati ad una festa, che sono stati intrattenuti dalle oscenità del buffone, che hanno bevuto insieme dalla stessa coppa, che è una ciotola, non è un bicchiere, non è un calice. Perché se notate, questa coppia è già dentro la tenda. Vedete dove arriva questa tenda e vedete quanto siamo squilibrati a livello prospettico? È come se questa tenda fosse incredibilmente in avanti, ma prospetticamente è collocata dietro. È sufficiente questo drappo rosso per dare continuità all'azione, come se fosse una sequenza di immagini a fumetto, diciamo così, che anziché essere inquadrate sono state mescolate e hanno un andamento orario e a spirale, andando sempre più all'interno di questa tenda. Tenda che si capisce fungerà da alcova, per cui è il luogo dove i due amanti hanno un atto erotico. Non sono marito e moglie, altrimenti non sarebbero lussuriosi, almeno ci auguriamo che la lussuria non rientrasse anche nel matrimonio, fosse un peccato esterno. Ma anche lì dipende sempre, vero? Se si era protestanti o cattolici. Per cui pensate quanti elementi noi abbiamo in un tassello che è grande 15 centimetri, perché è una piccola parte della tavola, vero? In più metteteci che ovviamente tutto il contesto è un contesto verdeggiante, dietro abbiamo i boschi, i prati, sempre con questa minuzia incredibile tipica proprio della pittura fiamminga. Ma sono, se la stessa coppia, sono disabili, diciamo, sono probabilmente per l'epoca nudi o... No, per l'epoca nudi no, sono vestiti in modo diverso. Okay. Per cui potrebbero essere due coppie diverse, una prelude comunque all'altra, ma nel loro immaginario visivo è come se fosse la stessa coppia. Certo, se gli abiti fossero identici sarebbe perfetto. Se notate poi l'aumento di confidenzialità tra i due ci viene dato anche dalle calzature. L'uomo che sta già dentro la tenda indossa degli zoccoli, mentre l'uomo che abbiamo in primo piano indossa delle babbucce. Gli zoccoli corrispondono alle nostre ciabatte da camera da letto. Vi ricordate gli zoccoli a casa Arnolfini? È un oggetto che dà confidenza. per cui è un passo in più. Inoltre la dama non ha copricapo, ha scoperto i propri capelli, se notate. Anche questo è un atto confidenziale. Abbiamo detto tante volte, no? I capelli sciolti, per esempio. Per cui sono tutti, vi ripeto, micro elementi che dobbiamo proprio andare a vedere con attenzione. Altrimenti ci perdiamo il bello di questi lavori. Salendo, in senso antiorario, sopra la lussuria abbiamo l'accidia. Se notate, lussuria e accidia sono divisi da un muretto basso. Abbiamo già parlato, no, di queste separazioni tra una scena e l'altra. Come se lussuria e accidia potessero anche essere comunicanti. L'accidia, se vi ricordate, è un po' quello che noi chiameremo oggi indolenza, voglia di non fare. È l'ozio, quello non inteso da riposo dopo il lavoro, è un ozio padre dei vizi, nel vero senso del termine, cioè è un ozio legato all'inattività, alla non voglia di fare, è un peccato mortale. Qui ci viene dato da un uomo, sembrerebbe essere un uomo, seduto su una sedia con un cuscino, perché è ben comodo, davanti al focolare, per cui proprio è chiuso in casa, e si capisce che è una situazione di calduccio. Abbiamo il cane che è raggomitolato ai suoi piedi, è giorno perché fuori abbiamo luce, la candela è spenta e abbiamo questa donna che sembrerebbe essere una monaca, potrebbe anche essere una monaca, che porge a quest'uomo che ha anche in mano un lume spento, cioè talmente pigro che ha perso anche il lume della ragione, non si è nemmeno alzato per accendersi la candela, è il top della pigrizia, è l'origine del telecomando questa situazione, vero? Questa monaca sembra quasi porgergli un rosario, cioè quest'uomo è talmente pigro che nel fare niente neanche prega. Così come potrebbe anche essere la saggezza questa monaca, perché tiene in mano un libro. La saggezza che in un certo senso lo invita all'azione, a fare qualche cosa, almeno ad alzarsi per accendere questa candela. Cosa che ovviamente lui non fa. Anzi, siamo in una stanza, non dico trasandata, ma con delle dimenticanze. Guardate che cosa abbiamo qui dietro. Abbiamo una caraffa, ovviamente vero lucida, con dentro o due fiori di canna, intendo canna di bambù, vero? Non altri fiori di canna, o delle candele spente. E posato, staccato dal muro, per cui proprio in una scena di trascuratezza o di dimenticanza di Dio, un crocifisso proprio posato, non ha avuto neanche la voglia di appendere un chiodo, di attaccare un chiodo per agganciare questo crocifisso alla parete. Per cui micro elementi che ci parlano proprio di pigrizia totale. Guardate che meraviglia lo studio geometrico della pavimentazione di questa stanza. Anche qui, vero, prospetticamente costruito con una forte inclinazione, proprio per consentirci di vedere bene la scena. Dopo l'accidia arriva l'avarizia. E anche qui dobbiamo essere attenti, perché non ci viene facile riconoscerla a colpo d'occhio. L'avaro. L'avaro è colui che ha molto denaro e non vuole spenderlo. È un uomo che vive in totale povertà, pur di non spendere il denaro che ha. Non è Paperon de Paperoni. perché Paperone, Paperone non si priva di nulla e si diverte, no, a fare i suoi tuffi nelle monete d'oro. È qualche cosa di peggio, è proprio chi ha molto e non vuole usarla. La fiaba di Natale, no? La Carol, la Christmas Carol descrive questa situazione, cioè il fatto di avere delle persone che, pur potendo vivere nell'agiatezza e aiutare il prossimo, non aiutano il prossimo e vivono male pur di non spendere denaro. L'avaro è quest'uomo, vedete? Tra l'altro ha sempre dei tratti rigidi, brutti, duri, l'avaro, perché è anche un uomo che si è incattivito, che non ha più buoni sentimenti, che è un po' anche un uomo che ha dimenticato il resto del mondo, è un misantropo. Ha ovviamente la borsa piena di denaro, rigorosamente alla cintura, in modo di avere questo denaro sempre con sé, perché non se ne separa mai. Ha quest'asta lunga che serve proprio per picchiare chiunque gli chieda qualcosa, per tenerli lontani. E doveva essere qualcuno conosciuto da Bosch, perché noi in questa immagine non riusciamo a riconoscerlo, ma porta sul cappello lo stemma di famiglia, e quindi probabilmente è un avaro famoso, perlomeno dove vive Bosch, o è un amico di Bosch particolarmente avaro, e lui si diverte ad andare a ritrarlo dentro questa miniatura. Libri, sicuramente sono libri contabili, dove si controllano le entrate e le uscite, quanto si è speso, quanto si può risparmiare, quanto si può imbrogliare. Infatti abbiamo una sequenza di persone che vanno a chiedergli qualcosa, e questo qualcosa probabilmente è denaro. L'avaro solitamente non salda i propri conti, compra le cose e poi non passa a pagare, perché non c'è motivo di pagare, sono soldi sperperati. Sono sicuramente persone alle quali lui deve dei soldi, e sono uomini d'affari, perché se notate qui abbiamo proprio un notaio, lo capiamo dal tipo di copricapo che indossa e anche dal mantello bordato di pelliccia scura, che tiene in mano un contratto e si sta consultando con un altro, e è molto tempo che aspettano ad essere pagati. Da cosa lo capiamo? Si sono addirittura seduti su una panca, tanto è lungo il tempo dell'attesa. E guardate che questo potrebbe essere anche un parroco. Ha una borsa vuota in mano e un cappello, veste in blu, ma il blu, ricordatevi, può anche essere sinonimo di colore scuro. Il nero mal tinto o stinto può sembrare blu. Porta sotto una camicia e, diciamo, lo sta proprio pregando, no? Di dargli qualche cosa o di restituire qualche cosa. Ma pare proprio che quest'uomo abbia il braccio corto, per cui ascolta ma assolutamente non paga. E se notate, si sta alle spalle facendo dare una moneta. Per cui questo potrebbe anche dirci che magari vuole dare del denaro a questo parroco, chiamiamolo così per capirci, ma il denaro che dà non è il proprio, è il denaro di altri. Per cui si fa dare dei soldi per restituire soldi. Alla fine è un passaggio di mano, ma la sua borsa resterà assolutamente ermeticamente chiusa. Il tutto sempre, guardate, in uno straordinario paesaggio agreste, perché noi abbiamo la casa di campagna, l'albero dentro al quale si nasconde una civetta, ancora una volta, una micro civetta, penso dipinta con un pennello con due peli per riuscire a realizzarla, perché proprio qualche millimetro, e all'orizzonte abbiamo un mulino e colline, un mulino ad acqua e colline con vegetazione. Cioè non si perde mai l'attenzione a quello che è il paesaggio, ed è sempre un paesaggio pulito, nitido, che si riesce a scorgere proprio fino al limitare dell'orizzonte. E l'ultimo è costituito dall'invidia, e questo forse è il più complicato. Siamo in una città, perché se notate siamo dentro una città, il che significa che si è anche più portati ad incontrare altre persone nella città, no? C'è più confronto e quindi è più facile provare l'invidia probabilmente. Abbiamo un falconiere, per cui un uomo con un falco. Ricordatevi che questa è una tecnica di caccia aristocratica, tra l'altro, nel 1400. Abbiamo una scena che potrebbe essere anche questa la continuazione di quello che vediamo subito dopo. Cioè abbiamo un uomo benestante, ricco, con la borsa alla cintura, che dona qualche cosa a questa donna, sembra un fiore. Abbiamo appunto gli altri personaggi sulla strada, dall'interno della casa un uomo e una donna spiano fuori, con ghigno, non perplesso, ma invidioso, provano invidia per chi sta fuori. Ce lo sottolineano i cani che hanno ai piedi. Questi cani, se notate, hanno degli ossi a terra, potrebbero mangiarli, tra l'altro sono ossi grossi, ma ambiscono all'osso che tiene in mano quest'uomo. Cioè, pur avendo il necessario, ambiscono a qualche cosa che non possono avere. E l'uomo che tiene l'osso indica alla donna che lo affianca, potrebbe essere la moglie, il falconiere, che sicuramente, vi ripeto, è un aristocratico. E se volete noi potremmo quasi immaginare, no, quello che si stanno dicendo: ah, guarda quello là, guarda com'è conciato, guarda che cosa fa, va in giro per la città con un falcone, è pericoloso farlo. Infatti questo falcone è bendato, porta una sorta di cuffietta sulla testa, ancora oggi si fa, sapete, con i falchetti, si mette questa copriocchi in cuoio proprio per evitare che vedano e possano essere pericolosi, perché sono comunque animali che vengono proprio addestrati all'attacco, servono per andare a caccia. Di conseguenza abbiamo una serie di elementi che ci dicono che quest'uomo, con questo ghigno, con questa faccia, prova invidia nei confronti dell'aristocratico. Bosch conserva quest'idea che chi è in peccato mortale non possa essere bello, che il diavolo vada anche a deformare i tratti somatici di un uomo. L'uomo, in grazia di Dio, è meravigliosamente bello. Il tutto sempre, vi ripeto, in situazioni infinitamente piccole. Ma qui abbiamo tutto, perché abbiamo anche, se notate, i cespugli d'erba lungo le mura della città. Città che tra l'altro è una città guelfa, perché i merli, se notate, sono a mattone. Per cui è una città filopapale, forse non a caso. Per cui una città che è fedele al Papa. Se fosse una città fedele all'imperatore, i merli di questa città, la merlatura delle mura, sarebbero a coda di rondine, a M. Ma come mai il falconiere ha un zocco? Chi lo sa? Anche questo, no, sembrerebbe un atto confidenziale. Forse è stato ospite da loro, forse è una persona che li frequenta a casa, forse un amico. Non lo sappiamo. Vediamo per un istante, proprio per avere un raffronto, un'acquaforte di Bruegel. Dedicata proprio ai sette peccati capitali. Bruegel è successivo, vero? Abbiamo già così accennato un po' alla sua vita. Abbiamo una serie di elementi qui interessanti. Perché? Perché ci ricorda, se avete memoria, un po' Giovanna la pazza, no? Sembra quasi speculare. Abbiamo la casa costruita su un albero e ci parla quindi di stupidità, perché un uomo non è un uccello e non può vivere sugli alberi. Guardate il raffronto, tra l'altro. Non a caso, sul medesimo albero, noi abbiamo anche un nido. Un nido, tra l'altro, che l'uccello sta difendendo da un rapace che lo ha probabilmente attaccato, che gli ha rubato un uovo. È una copertura assolutamente non sicura, rattoppata, sottomesso anche delle frasche, vedete? Abbiamo però la nostra solita brocca di vino vuota, l'aringa messa fuori ad asciugare, un po' stoltamente, perché gli uccelli sicuramente arriveranno a mangiarsela, e la situazione è talmente demenziale che addirittura un mostro, un rospo, un grillo, si mette le mani sulla testa a guardare questa situazione. Abbiamo una campana che sta suonando perché un giullare la sta facendo oscillare. Sarà un po' difficile fare questo cambio, sembra. Temo di sì. Però potremmo scambiarci le sedie, può essere? Ma diventa un... Quanti ne hai? Se vengono tutti sono una quarantina, poi non ho detto che vengano tutti. Perché il professore deve fare uno scritto e non ha dove farli scrivere, praticamente servono le sedie con gli appoggi. Però sono importanti per andare di là. Il problema era quello, infatti. E tra l'altro le altre aule sono occupate perché stanno facendo lezioni. Le altre aule non hanno e non hanno le tavolette. Come possiamo fare per aiutarvi? Però fanno il cambio dalle sedie e un'applicazione infinita. Fin quando ci siete qui? Tanto, fino alle 5:30. Non posso arrivare 4:30 perché sono le 4:30. No, perché poi abbiamo una lezione anche da recuperare. Ma vedo un momentino, se riusciamo. Se riusciamo volentieri, ci spostiamo. Se riusciamo a arrangiarci qua senza fare 50.000 trambusti, è preferibile. Mi dispiace. Spostare le sedie diventa un... Ma se ci spostiamo noi di là, non ci stiamo di là. Siamo troppi anche noi? Ci state ma quanto stretti. Siete presenti, no? Sì. Non è una che questa è molto più ampia. Ma vediamo un attimo, se proprio è una condizione disperata, allora chiederemo. Insomma, se possiamo volentieri. Va bene, bravo. Dicevamo, un giullare sta facendo suonare la campana, no? Come se fosse una sorta di sacrestano, solo che questo non è un campanile, questa non è una chiesa. Sembra quasi la casa dei pazzi. Sotto ovviamente abbiamo situazioni che noi abbiamo già incontrato in Bosch. Abbiamo l'uomo allo spiedo, abbiamo il calderone di magia, abbiamo questo mostro che sta facendo assaggiare con un mestolo ad un altro mostro la sua pozione, vassoi buttati a terra. Non riesco. Qui. Non se riusciamo a scendere. Ecco qui. Uccelli che di grande taglia che mangiano come se fossero delle galline, dannati che vengono tagliati a metà. Questo era uno dei peccati, vero? Cioè una delle pene che veniva inferta ai ladri. Più era grave il furto, maggiore era il taglio, per cui si partiva da un dito, si arrivava una mano, l'avambraccio, il braccio e il taglio a metà del corpo nella peggiore delle situazioni. Un dannato che viene preso praticamente a randellate, perché questa è una mazza chiodata, quanto di peggio si possa immaginare, sempre da un mostro. Una cagna che si sta mangiando un uomo. Abbiamo anche degli orsi, se notate, che stanno mordendo degli uomini. Cioè, tenete conto che sono tutte situazioni che a noi così possono un po' impressionare, ma per gli uomini dell'epoca queste erano situazioni possibili. L'orso bruno nei boschi c'era, i cani randagi, i famelici c'erano, i lupi c'erano, per cui erano tutti incontri che si potevano fare effettivamente. E qui non abbiamo la ripartizione dei peccati come invece fa Bosch in modo così capillare, quasi scientifico, no? Si preoccupa di darci tutti e sette i peccati, scrivendoci anche che peccati sono. Qui li abbiamo un po' mescolati, riusciamo a riconoscere la lussuria, se vi ricordate l'abbiamo già incontrata in Bosch, no? Dentro a questo letto, sotto la tenda. Qui è sopra la tenda e stanno anche andando a fuoco, li stanno praticamente lessando i due amanti. Abbiamo l'assassinio dentro ad una botte. Abbiamo la gogna, una ruota dentata che veniva fissata alla testa del malcapitato. Naturalmente abbiamo scudi musulmani, ricordatevi, no, questo legame per la mentalità dell'epoca tra credo musulmano e diavoli. Abbiamo questa masnada di esercito bislacco, perché sono con armature poste sopra delle tuniche, cosa che all'epoca non si faceva, scudi piccoli, questo è proprio un tipico scudo musulmano, con spada lunga invece occidentale. Ma quest'uomo è già morto perché ha una freccia piantata dentro l'elmo. Questi altri sono sempre mostri. Guardate, questa è una testa, vedete? Al posto dei genitali non abbiamo il busto, non abbiamo nient'altro, soltanto una testa con le gambe. Per cui è il solito seguito demoniaco. Questo è un carro da guerra, al quale però è stato appeso del vino. E naturalmente questo è un soldato che combatte a modo suo, perché ha come criniera, come pennacchio dell'elmo, una bandiera con una nota. Per cui sembra, non so, facete parte dell'esercito di nessuno, no? Ma guardate, fino al mezzo busto superiore tutto ci torna, potrebbe proprio essere un guerriero, un cavaliere. Scendiamo e questo è un guerriero mostro, perché ha la coda e quindi è un guerriero rospo, e se notate ha una zampa d'anfibio da una parte e dall'altra ha una stampella, per cui è uno storpio. E se saliamo abbiamo altre situazioni perfette per quest'ora, no? Proprio in linea con l'ora della digestione. Dove abbiamo persone che si uccidono, scale per gli assalti, abbiamo, guardate un po', una sorta di copertura che sembra un enorme cappello dentro al quale si nascondono questi uomini a fare quasi il verso alla testuggine dell'esercito romano, no? Gli scudi sollevati creavano questa barriera. Questo è un cappello floscio, per cui non difende proprio nessuno. Anzi, è un cappello identico a quello che noi vediamo in testa a questa, che è la madre dei vizi, probabilmente, con questo ciuffo che fuori esce, che ricorda un rovo, con le spine, che ricorda la chela di un granchio, che ricorda le antenne di un insetto anche, no? È uguale. E stanno andando all'assalto, se notate, di una barca sospesa su delle botti sopra la quale abbiamo una sfera che è forata e ci ricorda un po' l'uovo di Bosch. Pesci volanti, cumuli di defunti, perché questi sono tutti teschi, rovine e all'orizzonte naturalmente una forca. Dico naturalmente perché ormai l'abbiamo vista praticamente in ogni opera che abbiamo trattato in questa seconda parte del corso. Ecco, una situazione quindi in netto contrasto con quello che è il panorama qui, perché abbiamo una marina molto serena con le barchette, ma a rompere un po' questa armonia è il castello di questa città che sta ovviamente andando a fuoco, ci ricorda l'inferno. Capite che questa è una sorta di riassunto dei peccati che abbiamo visto in Bosch e di altre situazioni di Bosch, ma vi ripeto, Bruegel il Vecchio è di poco successivo e conosce meravigliosamente le opere di Bosch. Qualcuno addirittura ipotizza, perché noi non sappiamo chi fosse Bruegel, vero? È un nome che è stato dato, ma non si chiamava Bruegel. Si ipotizza addirittura che potesse essere un ragazzo a bottega da Bosch, e quindi qualcuno che conoscesse le opere veramente dal di dentro, considerato come le copia e quanto le copia. E passiamo a un'altra opera, per cui lasciamo i nostri sette peccati. Dov'è finito il mio calvario? No. In questo periodo ho poca dimestichezza con la tecnologia, non capisco. Peccato, avevo preparato tutto un discorso su un'opera che non posso certo farvi vedere da qua. Sì, ma è anche, vede che ha il lucchetto ed è zero elementi dentro. Ah, signora, la vecchiaia. Due parole su un quadro che non vediamo, ma che però ci serve per quello che dobbiamo vedere dopo di Bosch. La salita al Calvario di Bruegel. Salita al Calvario di Bruegel che ci dà un'ampia distesa. Noi siamo in aperta campagna, grande distesa, immaginatevi un grandissimo prato che occupa i due terzi della tavola. Un terzo, la parte superiore, è dedicata al cielo ed è un cielo pieno di nuvole, è un cielo in tumulto. Sulla sinistra abbiamo delle rocce che ci ricordano un po' le rocce di Bosch. E qui sono rocce che potrebbero essere anche elementi zoomorfi. La cosa particolare è che tutto il quadro, con un colpo d'occhio poco abituato, ci dà una grande confusione. Abbiamo un sacco di personaggi che si muovono tutti verso destra, da sinistra verso destra. Tra l'altro, in alto, sulla destra, noi vediamo una specie di cerchio. Da sinistra a destra. A ben vedere, se noi facciamo proprio attenzione, tutti questi personaggi in realtà si muovono per cerchi concentrici e sembrano quasi tutti girare intorno a questa grande roccia. Noi il Calvario non lo vediamo in quest'opera. Il Calvario dobbiamo andare a cercarcelo in alto a destra. È una specie di semicerchio con una masnada, una quantità incredibile di gente microscopica nera che gira intorno, che fa, costituisce un cerchio. La crocifissione c'è già stata, è già tutto finito. Sono state smontate anche le croci e in quest'angolo in alto a destra, dove ci sono tutti questi micro mini neri, si è verificata la crocifissione. Tutto questo girare in tondo torna a parlarci di tutta quella letteratura di cui abbiamo parlato in questa seconda parte del corso, no? E Dante, l'idea dei cerchi concentrici e questa visione di Tandalo o Tundalo a seconda di come lo traduciamo, l'idea che i dannati girino in tondo perché non riescono a risolvere niente, a costruire niente. Girare in tondo significa ancora oggi non riuscire a far nulla, no? Ho bighellonato tutto il giorno, significa ho girato in tondo tutto il giorno, non sono riuscito ad entrare nel nocciolo della situazione. Ci giro intorno ma non riesco a capirlo. È ancora presente nel nostro modo di dire. Ecco, pensate un po' che tutto questo quadro che vi invito ad andare a vedere, che magari poi cerchiamo, durante la pausa lo cerco in internet così magari riusciamo a vederlo, è legato a quest'idea di cerchi concentrici. Come tra l'altro se il peccato fosse una sorta di sasso che cade, da qui probabilmente la presenza di questa roccia, di cade, che cade e che per cerchi concentrici si diffonde, si dilata, è contagioso. In primo piano, con una costruzione prospettica ardita, noi abbiamo al centro un giullare che ci dà di spalle e noi lo riconosciamo perché ha gli abiti slacciati sulla schiena e tiene un mestolo, il famoso scettro di legno, che sta assistendo a tutta questa situazione. È seduto, si sta riposando. E alla sua destra, in modo completamente sciolto, noi abbiamo Maria, devastata dal dolore della morte del figlio, consolata dalle pie donne. Ma in un contesto che sembra assolutamente fuori dal tempo e dallo spazio e dalla logica. È come se il pazzo, perché giullare e pazzo sono più o meno la stessa cosa, sono il matto, dicevamo, no? Anche del mazzo dei tarocchi, stesse guardando come noi questa scena e il matto si rendesse conto che quello che ha di fronte è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè la situazione è talmente demenziale, questo girare tutto in tondo, a cavallo, su un asino, a piedi, da risultare una demenzialità anche per un demente, per cui è la pazzia portata all'ennesima potenza. E la cosa divertente, o se preferite la cosa geniale, è che questo pazzo in realtà ha la nostra stessa posizione, perché ci dà di spalle e sta guardando quello che noi stiamo guardando. E quindi questo è il modo, se volete, buffo per dare a chi guarda queste opere del pazzo, da una parte, no? Dall'altra è quello di metterci dentro all'opera come se fossimo seduti accanto o al posto di quel giullare. Per cui è un'opera che non prevede uno spettatore esterno, ma ci porta dentro al quadro come se noi ne facessimo parte. Guardate che questa è una genialità che noi nelle costruzioni artistiche inizieremo ad avere a metà del 1800. Per cui c'è un'anticipazione di quasi 400 anni su questo modo di costruire l'opera, ed è geniale. Noi dobbiamo aspettare i grandi romantici, noi dobbiamo aspettare Friedrich per avere un soggetto che dà di spalle. E quel soggetto di fatto siamo noi, soli davanti al mondo, su una roccia in un mare di nuvole, no? Ma dobbiamo anche aspettare Henri de Toulouse-Lautrec per avere dei personaggi di spalle. Dobbiamo attendere il contemporaneo, dobbiamo attendere nel mondo del teatro Stanislavski, l'idea di poter dare di spalle al pubblico, perché la scena vive di vita propria rispetto a chi guarda. Eppure Bruegel lo anticipa e siamo a fine 400, per cui è una soluzione a dir poco geniale. Dopo, quando facciamo pausa, vi ripeto, lo cerco così, lo vedete. E mi serviva quest'idea del far andare intorno e soprattutto l'idea di avere un giullare, un matto, che anticipa il guardare, che guarda al posto nostro, per parlare proprio del trittico del fieno, altro grande lavoro di Bosch. Il trittico del fieno è un altro trittico interessante, particolare. A sportello chiuso ci dà questo. Vediamolo bene qui. Aspettate un attimo. Lo sportello chiuso ci dà proprio l'immagine del matto. Qua. Eccolo qui. Ante chiuse, abbiamo il solito straordinario paesaggio con le colline. La collina più alta ci presenta una forca, alberi, vari personaggi che poi vediamo, ma il soggetto principale è quest'uomo che viene chiamato venditore ambulante, ma di fatto è il matto, perché guardate, si ritrova ad avere uno zaino sulla schiena che di fatto è un cesto, con un mestolo infilato, vedete il mestolo di legno? Eccolo qui. Ha un bastone molto lungo, tenuto al contrario, perché il bastone del pellegrino prevede, vero, la nocca, la parte più grossa sopra. Sembra un enorme scettro rovesciato. Ricorda più quasi un remo che è un bastone. Al cane, vi ricordate, qualcuno mi chiedeva, ma quando il cane compare nella carta dei tarocchi insieme al matto? Ci siamo, agli inizi del 1500. E qui il cane, marrone. Quanto la terra, testa, vedete? Testa, zampe, pancia, coda. Cane che lo segue. Abbiamo un ponticello molto precario, dei resti di ossi in basso a sinistra e una serie di situazioni poco piacevoli. Prima di vedere le situazioni, guardiamo le altre opere che Bosch realizza probabilmente prima o subito dopo la dipintura di queste due ante. Qui abbiamo due possibilità. Questa è un'opera datata 1516, questa, il Trittico del Fieno. O queste ante chiuse sono state viste da più persone, sono piaciute e è stato commissionato il soggetto, oppure dal soggetto, del figlio al prodigo, pensate un po' come lo chiama, nascerà poi l'idea per queste due ante. Figlio prodigo che, se notate, ci viene dato su una superficie tonda, ma che di fatto è esattamente lo stesso soggetto che noi abbiamo sugli sportelli. Il personaggio è lo stesso, cambiano un po' i colori. Qui abbiamo un copricapo nero, qui l'abbiamo marrone, ma se notate porta sempre uno zaino a cesto sulle spalle. Il mestolo è infilato esattamente nello stesso posto, il bastone è lo stesso, ha il cane che lo segue, e questo figlio il prodigo è proprio un matto. Perché? Beh, tiene in mano un cappello avendo già un copricapo. Ha gli abiti laceri, se notate qui ha un ginocchio di fuori, ma anche quello delle ante del trittico del fieno, presentano un ginocchio scoperto, per cui ha gli abiti rotti, strappati, e soprattutto ha una scarpa e una ciabatta, ha una bracca, un pantalone sollevato, forse si è ferito, e uno invece che è in ordine. È sempre Bosch. È sempre Bosch. Cos'è di particolare la tavola del figlio al prodigo? Che ha una situazione in cui noi non riusciamo a capire se se ne stia andando da questa casa o sia un uomo che si è perso. Certo è che questo figlio al prodigo, ve la ricordate la parabola? No? Questo figlio che se ne va, vuole la propria eredità, la ottiene, la sperpera tutta divertendosi in città, si ritrova ad un certo punto per necessità a fare il guardiano dei porci, mangia ghiande perché ha perso tutto, non ha nemmeno il denaro per cibarsi. A un certo punto ci pensa e dice: ma come, io sono figlio di un uomo ricchissimo e sono qui a mangiare ghiande, torno a casa. Torna a casa e trova lungo il cammino il proprio fratello, che invece si è sempre comportato correttamente, e il padre accoglie il figlio al prodigo, questo figlio che se n'è andato, a braccia aperte, felice, dice: vieni, oggi facciamo festa. Il fratello, che si è sempre comportato bene, rettamente, non accetta questo ritorno e dice: ma come? Io adesso devo ripartire insieme a te la mia parte di eredità, non mi sta bene questa cosa. Risultato: il padre si impone e dice: ma tutte le cose che erano mie sono anche tue, riapriamo le porte a questo fratello che si era perso, che si era smarrito, e riprendiamolo insieme a noi, anzi festeggiamo per questo motivo. Per cui è una situazione che, diciamo, poco si lega con la giustizia, è una situazione invece che meglio si lega con l'amore paterno nei confronti del figlio. Ma noi qui non siamo in una situazione di questo genere, perché la casa che lui ha alle spalle non è una casa paterna, non è la casa dove uno sogni di ritornare. Guardatela bene. Scusi se mi interrompo, oggi devo parlare con lei per... Questa mattina dovevamo parlare. Io adesso sto facendo la lezione, come facciamo? Quando finisce, non è passato la quando finisce... Verso le 5 e un quarto, 5 e mezzo? Va bene. Qui? Quindi? Sì, qui. Grazie. Salve. Com'è questa casa? Una coppia... Che anche della finestra sono crepite. Per cui abbiamo, guardate, prego, scuri della finestra decrepiti, cadenti. Un tetto che imbarca acqua, perché è completamente sfasciato all'apice, grande disordine. Qui abbiamo un pigiama o una sottoveste, no? Buttato sul davanzale, ed è una casa un po' così, sembra la casa dei matti. Abbiamo una spia che affaccia da questa finestra, una coppia che amoreggia giusto sull'uscio, cioè proprio là dove uno non dovrebbe stare a farsi vedere dal mondo. Abbiamo un uomo che sta orinando contro il muro della casa. Non è una situazione idilliaca ed è proprio la casa dei matti, perché come stendardo ha la brocca di vino rovesciata. Anziché avere una bandiera, avere il galletto che ci dice la corrente del vento, c'è una brocca da vino a rovescio. E qui si vede male in questa foto, ma c'è uno stendardo con un cigno. Alcuni storici, alcuni studiosi ritengono che sia proprio lo stemma di una delle confraternite della quale faceva parte Bosch. io lo vedo con difficoltà, perché se io facessi parte di una confraternita, grazie alla quale tra l'altro lavoro, no? Mi vengono commissionate le pale d'altare, le tavole, eccetera, non indico quella confraternita come una casa dei matti, una casa che cade a pezzi. Può essere invece che la confraternita del Cigno fosse una confraternita antagonista a quella alla quale lui faceva parte, no? O ad un certo punto il rapporto tra Bosch e questa confraternita sia venuta meno e venga letta come mai una nave alla deriva, perché questa casa fatiscente ricorda un po' anche, no? Una nave alla deriva. Ci ritroviamo ad avere la solita civetta nascosta che spia dall'albero i porci che si stanno abbeverando. Probabilmente è la casa forse dalla quale questo figlio il prodigo se ne sta andando per tornare alla casa del padre. Questo ci giustificherebbe in parte la presenza di questi maiali, ma potrebbe anche essere un riferimento alla lussuria. E qui dietro abbiamo proprio una coppia, no? In atteggiamenti un po' così confidenziali. Tutta la tavola è terrosa, perché se notate qui il colore dominante è assolutamente il marrone. Per cui ricorda molto questo legame con il fango, con la sporcizia, con la terra, ma non in senso positivo. Anche qui all'orizzonte abbiamo una forca. E quindi c'è sempre questa ossessione della morte, no? Costante in tutte queste opere. Se noi andiamo a vedere le due tavole degli sportelli, quest'idea di morte continuiamo ad averla. La tavolozza, se notate, è più alta perché abbiamo degli azzurri, abbiamo dei rossi, per cui è più brillante. Non sono affatto brillanti invece i soggetti, perché vi ripeto, noi qui abbiamo una forca sempre pronta per essere utilizzata. Abbiamo sulla sinistra la scena di un furto. Abbiamo probabilmente un viandante che è stato bloccato da dei briganti e viene derubato. È stato spogliato delle sue vesti e lo stanno legando ad un albero. Queste sono le classiche scene che noi abbiamo visto nei film di Robin Hood, no? Dove uno viene bloccato nella foresta e legato ad un albero. Nel frattempo gli portano via tutto. Stanno proprio aprendo probabilmente la sacca che aveva con sé, con un coltello, hanno rotto, hanno tagliato il laccio che lo chiudeva, il suo mantello è a terra, vediamo anche delle armi, qui c'è una balestra, questa è un'alabarda, una piccola lancia. E qui dietro abbiamo una sorta di contromatto, perché abbiamo un altro personaggio che se ne sta andando portandosi, vedete, delle cose sul bastone. Ha una piccola borsa, un canestro e un mantello che anziché essere sulle spalle è sull'asta, sul bastone. E porta un paio di brache bicolore, cioè un pantalone è beige, un pantalone è nero. Il doppio colore non è mai una cosa positiva, diventa un vezzo, no? Ad un certo punto diventerà una moda, ma guardate che i due colori in un paio di pantaloni all'epoca erano sinonimo di qualche cosa di non regolare, non era normale, rientrava proprio negli abiti del giullare, del matto, del folle, anche dell'impostore. Per cui il ladro di professione, se veniva pizzicato, se veniva arrestato, oltre che subire le mutilazioni del caso, aveva l'obbligo poi di indossare pantaloni bicolore. Il doppio non è mai cosa buona nel 400, è sempre figlia del maligno, del diavolo, secondo proprio la mentalità dell'epoca. Dall'altra parte, noi abbiamo un suonatore di zampogna sotto l'albero e una scena di danza, per cui abbiamo una coppia che sta danzando al suono di una cornamusa. Ricordatevi che la cornamusa, perlomeno nelle opere di Bosch, è lo strumento per eccellenza legato al diavolo. Perché? Perché è un otre, è una sacca di pelle che viene gonfiata attraverso il fiato. Io soffio aria dentro l'otre, dentro questa sacca, e il suono esce man mano che l'aria fuori esce dalla sacca. Perché dico che è lo strumento del diavolo per eccellenza? Perché per intromettere l'aria io soffio come se fosse un flauto. E quindi ritorno a tutto quello che già ci siamo detti tante volte sul flauto e sulla perdita dell'anima attraverso la bocca. Ma aggiungeteci il fatto che la cornamusa è una sacca che talvolta veniva anche fatta con l'interiora degli animali. Ricorda, ovviamente in modo macroscopico, anche l'utero femminile, la placenta, il contenimento del bambino, meglio la sacca che contiene il feto. Ed è qualche cosa di sporco nell'idea del 1400, è qualche cosa che non va fatto vedere, qualche cosa che è frutto del peccato originale. Per cui la cornamusa è veramente il peggio del peggio. E quindi questa coppia danza sulla musica del diavolo. Calcolate che poi nell'Ottocento lo strumento del diavolo diventerà il violino, no? Ma per motivi letterari più che storici. Questo matto, questo venditore, questo ambulante, sta per oltrepassare un ponticello. L'acqua sotto, ancora una volta, ci ricorda l'acqua che abbiamo lasciato nelle varie situazioni infernali, no? La bolgia infernale è nera, scurissima. Ci sono degli animali che la abitano e sono positivi, perché noi abbiamo un anatroccolo, abbiamo una cicogna o comunque un trampoliere che si sta abbeverando, non abbiamo rospi, non abbiamo mostri. Ma la situazione è completamente instabile. Perché? Perché se notate, l'asse che funge da ponte è un'asse tutta rotta. Potrebbe anche sganciarsi da un momento all'altro, non è un passaggio solido, non è di pietra. E a fungere da parapetto, da ringhiera se volete, c'è un bastoncino posato su un legno. Ci dà tutto l'idea dell'instabilità, qualche cosa che non sia certa, che non sia sicura. È un passaggio sì, ma insicuro, non sereno. E in più metteteci i resti, no, di questi animali. Noi qui abbiamo proprio degli scheletri, abbiamo un bucranio, per cui abbiamo il teschio di potrebbe essere un bue, ma potrebbe essere anche un animale così di fantasia, no? Ricorda un po' il teschio anche dei rapaci preistorici. Ossi e naturalmente corvi che si stanno cibando di quello che resta della carne su questo che sembra essere uno zoccolo di cavallo, guardate. Sempre per l'ora della digestione è perfetto. Abbiamo uno zoccolo qui, vedete? Potrebbe proprio essere un arto di un cavallo o di un asino. E ha ancora un po' di carne, per cui se la stanno mangiando. Ecco che allora questo potrebbe essere il teschio di un cavallo o di un asino. Sono tutti elementi negativi, se ci pensate, no? Il furto, la danza al suono della musica diabolica, la forca dietro, lui che sta scappando o che se ne sta andando, però è preoccupato, è titubante, guarda dietro di sé, non davanti a sé, come se fosse inseguito da qualche cosa o come se stesse lasciando qualche cosa di molto negativo o volesse prendere le distanze da qualche cosa di molto negativo. E per di più sta andando verso una strada che non è una strada certa, non è una strada sicura. Di conseguenza sono tutti microelementi che ci mettono in guardia, sono tutti microelementi che ci parlano di una situazione che non è stabile, che non è positiva, non è sicura, dalla quale si sta fuggendo con grande preoccupazione o dalla quale si stanno prendendo appunto le distanze con grande preoccupazione. Questo è quello che noi vediamo sugli sportelli chiusi del trittico. Per cui capite bene che quello che ci sta anticipando è qualcosa di non certo, non sicuro. Vediamo com'è il trittico al suo interno. No, vediamolo aperto e poi facciamo tutto il nostro discorso. Noi lasciamo queste due ante con il viandante e dentro ci ritroviamo un'altra situazione pazzesca. Noi ritroviamo due situazioni che conosciamo, per fortuna nostra, destra e sinistra, giardino terrestre, l'Eden, e ritroviamo alla nostra destra l'inferno. Il problema sta nel centro. Al centro, per questo si chiama trittico dal fieno. Al centro abbiamo un enorme carro, perché se notate è proprio un carro, le vedete le ruote? Un enorme carro di fieno che si sta spostando da sinistra verso destra. Come ne usciamo? Aprendo una parentesi abbastanza importante, per cui abbiamo aperto, abbiamo visto, vi siete spaventati, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. E qui dobbiamo parlare di una serie di cose. Siete stanchi? Non rispondete, vuol dire che state già dormendo? Vediamo solo un paio di cose, poi facciamo pausa, d'accordo? Cerchiamo di capire. Cos'è questo carro di fieno? Cosa c'entra un carro di fieno? Noi abbiamo lasciato il giardino delle delizie al centro e adesso apriamo un altro trittico e ci troviamo un carro di fieno. Cosa vuol dire? Per capirlo noi dobbiamo andare a vedere una serie di situazioni, se no non ne usciamo. Una delle cose da ricordare, la grande piaga che ha tormentato l'Europa tutta dalla metà del 300 in poi, la peste nera, quella che teoricamente dovreste avere incontrato leggendo Boccaccio. Dico teoricamente perché se neanche la Divina Commedia è una certezza, non oso pensare Boccaccio. Decameron, quanti di voi sanno che cos'è? Facciamo il contrario, quanti di voi non si ricordano che cos'è? I conti non tornano? In che senso? Esatto, né prima né dopo. Forse sono Erasmus e non hanno capito. Decameron, Boccaccio, è una raccolta di novelle, no? Perché nasce questo testo a metà del 1300? Perché scoppia la peste nera. O meglio, la peste nera arriva fino a Firenze. È pericolosissimo restare in città, questo l'hanno capito vista la falcidiata di persone che stando in città muoiono. E di conseguenza un gruppo di amici, racconta Boccaccio, lasciano Firenze per chiudersi in una casa colonica a Fiesole, in collina, in modo da essere isolati. Per allietare queste giornate che non finiscono mai, iniziano a raccontarsi delle storie. E il Decameron è una raccolta di 100 narrazioni praticamente. Ognuno a turno racconta una storiella o inventa, e c'è di tutto, dal macabro allo scabroso, al divertimento, sempre a sfondo erotico, alla burla, all'inganno, una serie di storielle proprio che servono per far passare il tempo. Cosa c'entra il Decameron? C'entra perché quello è un testo miliare, il più tradotto al mondo, tra l'altro, pensate un po', Decameron, non la Bibbia e non quanto la Bibbia e non quanto la Divina Commedia. È proprio il testo più tradotto in assoluto. Non l'avreste mai detto, eh? E nasce proprio in concomitanza di questa peste, giusto per darvi l'idea di quanto quell'epidemia fu pazzesca. Si calcola che in occasione nel 340 adesso la data esatta, 348 mi pare, morirono qualcosa come un terzo dell'intera popolazione europea. Una cosa? 68, grazie. 1368. Un terzo dell'intera popolazione. Per cui guardatevi intorno, togliete uno ogni tre di noi. Solo in un anno. E qui capite che iniziarono tutta una serie di situazioni, perché si pensò che fosse una maledizione di Dio, si pensò che fosse arrivata la fine del mondo, si paragonò l'Europa a Sodoma, a Gomorra, cioè l'Europa doveva essere disintegrata, Dio si era stufato, era l'Apocalisse. Non si capiva come poterla curare, non era possibile curarla. Era facilissimo prenderla, tra l'altro è altamente contagiosa la peste, vero? E non è debellata come si pensa, c'è ancora. Veniva portata dai topi, le pulci dei topi, i quali erano portatori sani di peste, succhiavano il sangue dai topi, poi si spostavano agli uomini e succhiando sangue agli uomini trasferivano il germe di questa malattia che proprio uccide. In modo anche abbastanza rapido. Risultato: ci si inventarono tutta una serie di soluzioni per esorcizzare la morte, per rendere questa morte, non lo so, una compagna di viaggio da tenere sotto controllo. Una donna, solitamente un'entità femminile, che può venirci a prendere da un momento all'altro. Qui inizia molto probabilmente la tradizione della danza macabra, per esempio, che è una danza di esorcismo. Si fa questa danza per invocare la morte e per invitarla a stare lontana. Se ci pensate è un controsenso, no? Io chiamo qualcuno per dirgli di non venire, per dirgli stattene a casa tua. Com'è la danza macabra? Questo è un problema, è una cosa abbastanza complessa. Non è improbabile che la danza macabra derivi dalla danza ridicolosa, cioè quel tipo di danza di cui forse già vi ho parlato, che veniva imposta agli ebrei, no? Il fatto di far ridere è una danza demoniaca. Perché? Perché è disordinata, perché è scoordinata. La danza macabra probabilmente è sorella della danza ridicolosa. Non abbiamo un tema di danza musicale certo, se non assolutamente posteriore. Abbiamo però tutta un'iconografia della danza macabra e abbiamo una serie di leggende legate alla danza macabra. Non è improbabile che i trionfi, i vari trionfi della morte, nascano proprio per esorcizzare questa morte. La danza macabra avrà, a seconda di dove ci troviamo, e secondo alcuni tra l'altro nasce in Svizzera, tra la Svizzera e la Francia, ma sicuramente si diffonde in tutta Italia con grande rapidità, ha un suo strumentario, ha una sua orchestra, diciamo così. Ed essendo macabra, l'orchestra, gli strumentisti di questa danza sono scheletri, che che suonano ovviamente strumenti a fiato. È un esercito questa orchestra che si muove, dove ha addirittura un portatore di bandiera. Ovviamente lo stendardo è quello dello scheletro con le ossa incrociate. È simbolo di morte. I pirati lo utilizzeranno proprio per ricordare che loro portavano la morte. Verrà utilizzata sugli acidi, no? Come simbolo proprio di pericolo, alto pericolo. Nasce qui, molto probabilmente, questo stemma che rappresenta proprio la morte. E abbiamo, pensate un po', raffigurazioni ad ampio spettro, perché li abbiamo nelle miniature, li abbiamo come in questo caso, come decoro di un salone delle feste. E qui siamo a Tallinn, per cui siamo nell'est Europa. E se notate, come decoro del salone delle feste, noi abbiamo un gruppo danzante veramente bizzarro, composto da ecclesiastici, perché qui abbiamo un papa, lo riconosciamo dal copricapo, vediamo, ecco, di riconoscerli tutti. Abbiamo, guardate, un papa che ha appunto il pastorale, vestito di porpora, che viene preso, praticamente preso, da due scheletri che hanno un lenzuolo intorno, che è il sudario, vero? È il lenzuolo nel quale i cadaveri venivano avvolti e poi messi dentro le bare. Guardate che è da qui che nasce il lenzuolo dei fantasmi. È proprio questa l'origine. Abbiamo un giudice, una sorta di dio giudice, ma assolutamente imborghesito, no? Non ha niente della barba, dei baffi che abbiamo lasciato. Abbiamo ovviamente l'orchestrina e qui abbiamo sempre un suonatore di cornamusa, che è uno scheletro naturalmente, che ha anche utilizzato il fazzoletto che si usava per tenere chiusa la bocca ai defunti, che verrà poi usato anche per ridere, no? Per il mal di denti, il fazzolettone con il nodo in testa, se l'è messo a modo di turbante, altrimenti non avrebbe potuto suonare. Per cui si gioca con questi che sono oggetti della morte. Quest'altro sta portando, se notate, non una trave, ma probabilmente la bara a spalle. Gli ha preso il mantello e sicuramente lo porterà con sé davanti al giudice. Se notate, i corpi di questi morti non sono completamente decomposti, c'è ancora della pelle sopra e sono tutti squarciati nella pancia, per il discorso che ci facevamo 15 giorni fa. Se notate, poi qui abbiamo un altro scheletro che gli sta prendendo la mano praticamente, come se dovessero muoversi in un passo di danza. Con l'altra mano lo scheletro tiene un re, un sovrano, con tanto di corona e di simboli del potere. Il suo mantello è trattenuto da un altro scheletro che sta danzando. Questa è una danza fatta in fila, dove ci si tiene per mano, perlomeno ci si sfiora. Questo scheletro, che ha il sudario in testa a mo' di cappuccio, di copertura, prende il gomito ad una nobildonna, bellissima, elegantissima, potrebbe essere una regina, ma che comunque viene invitata a danzare con la morte. Che siano sovrani, che siano ecclesiastici, moriranno comunque. E gli scheletri stanno proprio ballando insieme a loro. Vedete i passi di danza? Ovviamente è una danza che ricorda quella dei piedi neri e intorno ad un focolare, perché è una danza ridicolosa, una danza sguaiata, disordinata, non elegante. E potremmo quasi immaginare che stiano anche cantando, no? Proprio per come hanno queste teste. Qui abbiamo un vescovo, un cardinale per la precisione, che non vuole saperne di essere preso da questi scheletri, ma gli tocca esattamente come capita quando si viene presi a ballare e non si vuole, no? Si viene portati dentro ad un girotondo e alla fine ti tocca per forza. Quest'altro scheletro si sta rivolgendo, sta guardando ad un principe slavo, tra l'altro, proprio per il tipo di abito e di scettro che porta. E quest'altro scheletro si sta guardando indietro e tiene sicuramente qualcun altro. Cioè, questa è una danza macabra. Abbiamo vivi e morti che danzano insieme. È un modo per esorcizzare la morte. È un modo per indurre la morte a scherzare. Guardate, abbiamo tutta una serie di raffigurazioni come queste dalla seconda metà del 1300 in poi. Orchestre, sempre con strumenti a fiato, perlomeno uno di loro che suoni e gli altri che ballano. Sono cadaveri che stanno resuscitando, che sono usciti dalle tombe, hanno ancora i sudari, i famosi lenzuoli, le famose lenzuola dei fantasmi. Si tengono per mano e danzano. Certo, vero, a noi fa sorridere, fa ridere, e se dobbiamo pensare ad un tipo di musica, non so voi, ma ogni volta che io vedo queste raffigurazioni a me viene in mente il jazz. Sì, a me sì, perché il blues, tutto sommato, no, nasce come canto di dolore e accompagna non a caso i funerali, e si suona e si danza in quei funerali. E molto probabilmente quel modo, penso ai funerali di New Orleans, ai funerali neri di New Orleans, sono un modo per esorcizzare la morte. È quello che ci resta probabilmente della danza macabra, ovviamente in un'accezione positiva e solare, no? Ma quello è. E se notate, questi cadaveri poi sono molto galanti tra di loro, perché questo sta facendo fare una giravolta all'altro, no? E qui abbiamo un intreccio, perché si stanno anche divertendo come dei pazzi. Perché in un momento di disperazione e di morte si fa danzare la morte? Perché probabilmente ciò che spaventa tantissimo ci fa anche ridere, no? Il riso compulsivo è una reazione che si ha nei momenti di panico. Grande sudorazione e riso isterico. E forse è un modo per, non so, riuscire a sdrammatizzare la morte. Pensate che nasceranno tutta una serie di leggende legate proprio ad una danza fatta tra tre vivi e tre morti. E di questo abbiamo ampia letteratura. Queste scene di tre vivi e tre morti che danzano insieme le troviamo ovunque, perché possiamo trovarle, pensate un po', già dagli inizi del 1400, seconda metà del 1300, dentro le chiese, proprio come fregio, come ornato all'interno delle chiese, possiamo trovarli sulle facciate delle case e possiamo trovarli sui muri dei cimiteri. Sui muri dei cimiteri lo capisco di più, perché no, è legato alla morte, la morte che resuscita e danza con i vivi. Il luogo dove vivi e morti si incontrano, il cimitero. E ancora di più mi viene in mente un funerale legato a New Orleans, no? Perché l'ultima danza viene proprio fatta sulla tomba del defunto, suonando che cosa, non a caso, strumenti a fiato, trombe e clarinetti. Si aggiungono poi i piatti rubati alla batteria, e quindi si suona a mano quello che nella batteria è il Charleston. Faccio più fatica a capirlo sulla facciata di una casa, però la giustificazione ce l'abbiamo. Se io voglio esorcizzare la morte vado a raffigurarla. Se io ho bisogno di un amuleto scaramantico, l'amuleto scaramantico lo metto sulla facciata della casa. Serve da protezione, fa da scudo, è un antidoto, diciamo così. E ne abbiamo ancora conservati in varie parti d'Europa. Guardate che molto probabilmente questa è l'origine dei vari trionfi della morte. Danza macabra e trionfo della morte vanno sotto braccio. Nel 1300, proprio legato a dei fenomeni di letteratura, noi abbiamo una serie di componimenti poetici che prenderanno il nome di trionfi e sono di vario genere, possono essere delle odi di esaltazione di un sovrano, possono essere delle odi legate al trionfo della vita, possono essere una serie di componimenti scritti in onore del signore della città. Petrarca scrive dei trionfi, famosissimi sono i trionfi di Lorenzo il Magnifico, no? E dentro abbiamo vari canti e sono proprio delle poesie scritte per essere musicate. Alcuni di questi sono legati al carnevale. Il famoso trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo il Magnifico, che con il titolo conosciamo in quanti qui dentro? 2, 3? Gli altri sanno? Se lo ricordano? No. Però se dico chi vuole essere lieto sia, di domani non vi è certezza, quello è il refrain del trionfo di Bacco e Arianna, scritto dal Magnifico. È un'ode alla felicità, al cogliere l'attimo, al carpe diem di Orazio. Cioè, goditi la vita finché puoi, perché poi arriva la morte e tutto finisce. Non è improbabile che come controcanto a questi che sono i trionfi di lode, di onore, di grandi sovrani o della vita stessa, vengano a crearsi i cosiddetti trionfi della morte. Sono degli antitrionfi o comunque dei trionfi per esorcizzare la morte. Noi abbiamo una serie di raffigurazioni legate proprio a questo tipo di trionfo. Una di queste ce la dà Andrea Mantegna a Mantova. Questa è una tavola che raffigura proprio il trionfo della morte. Che cosa abbiamo? Abbiamo un carro trainato da buoi neri, sopra il quale in trionfo, come se fosse un grande condottiero che ritorna dopo una battaglia vinta, abbiamo uno scheletro con tanto di mantello sulle spalle e una falce. È la morte. A ornare questo carro abbiamo dei teschi e il carro passa come se fosse proprio una macina sopra a dei cadaveri. La morte ha vinto sulla vita. Il carro della morte passa sopra ai cadaveri. Tutte persone alle quali la morte ha tolto lo spirito vitale. Sappiamo, perché ce lo raccontano le cronache, da nord a sud Europa, che per esorcizzare la peste, pensate alla follia, si facevano delle processioni in cui si pregava, in cui ci si flagellava, in cui si chiedeva perdono a Dio. Ma capite che in un'epidemia fare una processione è demenziale, perché significa diffondere proprio come se fosse una pioggia il germe ovunque. Sappiamo che molti di questi che partecipavano a queste processioni di espiazione si incappucciavano e indossavano delle tuniche, dei sai neri. E sappiamo che queste processioni molto spesso, proprio perché esorcizzavano la morte, venivano fatte di notte ed erano, credo, incredibilmente impressionanti per la popolazione. A me è capitato di leggere proprio una cronaca del 1400 siciliana che racconta di questa processione che si fece perché la peste non si riusciva a debellarla e fecero una lunghissima processione folle per tutta la città vestiti come se fossero dei monaci, uomini soprattutto, incappucciati tenendo delle torce per illuminare ovviamente il buio della città della notte. Questa processione, pensate un po', rimase talmente tanto nell'immaginario visivo che dette vita a tutta una serie di opere d'arte legata agli incappucciati, legata alla morte, legata a queste fiaccole, legata anche all'immagine della strega, perché la morte è un po' una strega, e quindi ritorna a quello che ci siamo detti nelle lezioni precedenti. Perché usano i carri? Perché Mantegna usa il carro? Perché anche in altre situazioni il trionfo della morte ce lo presenta su un carro? Anche le miniate che decorano, che ornano i trionfi di Petrarca ci danno un trionfo della morte, e la morte è proprio su un carro. Ed è una fanciulla, è una vergine, e il carro è trainato non da buoi neri, ma da unicorni. È l'animale legato alla verginità, l'unicorno, nel 400. A fare da staffiere, cioè a fare da guida, è la morte, che qui è stata cancellata probabilmente da un proprietario di questa miniata che non gradiva di vedere la morte dovendo leggere. Vedete che è proprio stata grattata. È su pergamena, vero, questa miniata. Riconosciamo però la falce e il colore scuro della morte. Il suo seguito, il pubblico, se preferite, è costituito da scheletri con dei manti. Perché? Perché rientra nella concezione di festa. Le sfilate dei carri, che per noi oggi sono solo legate al carnevale, come già vi ho detto tante volte, rientravano nelle feste civiche, rientravano in tutta una serie di occasioni, ed erano sempre carri a tema. La primavera, l'autunno, l'inverno, il santo patronale, e la Via Crucis, molte di quelle scene erano su carri, perché potevano essere spostate da una parte all'altra della città, esattamente come oggi i nostri carnevali. Ecco che se io devo esorcizzare, se io devo fare una processione, la morte la porto in trionfo e la porto su un carro, e a seconda delle situazioni la faccio trainare da animali legati alla morte. Tori neri, o se preferite proprio da vitelli neri. Il nero è legato sempre al demoniaco e quindi appartiene alla notte. Ecco perché anche queste processioni erano di notte. E vi ripeto, abbiamo varie situazioni, vari tipi di carro, ovunque, nord, sud. Per farvi l'esempio del controcanto del trionfo della morte, vi ho portato un trionfo di amore. Se qualcuno di voi ha avuto occasione ed è stato a Palazzo Schifanoia, per esempio, a Ferrara, parte del Salone delle Feste è proprio decorato da una sequenza di carri. Sono i carri che ricordano le feste aristocratiche della città. E sono a volte scene mitologiche. E i cavalli venivano bardati, trasformati, travestiti da draghi in alcune situazioni, travestiti da unicorni, gli si metteva il corno in fronte. E questi carri arriveranno a fine 500 ad essere veramente colossali, con degli automi, con delle orchestre nascoste dentro delle enormi sfere, con dei cori che cantano. Cioè era qualche cosa di strabiliante. Il trionfo di amore, in questo caso, lo vediamo sempre, vedete, su un carro con dei cavalli che sono quasi stati travestiti da ippogrifo, gli sono state messe delle ali sulle spalle. Perché? Perché amore è un putto alato, è bendato e lancia frecce. E intorno a un seguito di uomini, a prescindere dalla loro età, che ambiscono ad essere innamorati o ad essere amati. Guardate che doveva essere un'usanza incredibilmente diffusa, perché noi ne abbiamo davvero ovunque di questi carri. Li troviamo negli affreschi, li troviamo nelle miniature, li troviamo nei decori dei vari testi dell'epoca, laici o ecclesiastici. E vi ripeto, nel tempo diventeranno delle vere e proprie macchine, incredibilmente stupefacenti. Ancora oggi potessimo ricostruirle, ne saremmo colpiti. Su carri in trionfo vengono raffigurati anche alcuni personaggi dei mazzi dei tarocchi. La giustizia, per esempio, nel mazzo di tarocchi attribuiti al Bembo, e quindi sono mazzi che appartengono sempre alla famiglia Visconti, la giustizia ha sì in mano la stadera, per cui la bilancia con i due piatti e la spada, ma viene anche raffigurata sul suo retro su un carro trainato da cavalli bianchi. È la giustizia, per cui il cavallo è bianco, non è un cavallo nero, vero? È indice di purezza. E in un altro mazzo che appartiene sempre ai Visconti, probabilmente dipinto, realizzato da Andrea Mantegna, noi ci ritroviamo ad avere anche il matto, realizzato con il lungo bastone a spalle, che ricorda un po' il bastone che abbiamo lasciato proprio sugli sportelli che chiudono il trittico del fieno. Perché tutto questo discorso? Perché quel carro di fieno è un carro di trionfo, è quello che noi chiameremo un carro allegorico. Ecco perché tutta questa cosa sul trionfo. All'interno delle chiese, in concomitanza con quello che accade fuori dalle chiese, queste processioni, queste rappresentazioni di piazza con questi carri trionfali, iniziamo ad avere raffigurata la morte che va a cavallo. Se vi ricordate, noi finora abbiamo visto sempre la morte che si affaccia, no? Dalla finestra, da dietro il letto, che è sempre vestita, oppure ci fa capire che è uno scheletro. Dopo la ventata della enorme epidemia della peste nera, iniziamo ad avere la raffigurazione all'interno delle chiese. Qui siamo tra l'altro nella collegiata di San Michele a Lucignano. La morte ci viene rappresentata a cavallo, va veloce la morte, non entra sottovoce dentro casa, corre rapida come se fosse un araldo, come se fosse un arciere a cavallo. Ha i capelli sciolti, se li ha, scarmigliati come se fosse una strega. Porta con sé talvolta, non sempre, una falce, perché la morte falcia la vita, ma iniziamo ad averla anche come arciere. Vi ricordate che anche in Bosch l'avevamo vista con una freccia in mano? Ebbene, qui noi iniziamo a vederla incoccare le frecce, cioè lanciare le frecce. Uccide come si vede ammazzare realmente sui campi di battaglia, con le frecce. Ricordatevi, chi dipinge, dipinge ciò che vede. Ciò che ha nella sua memoria è ciò che ha visto. Può rielaborarlo un po', ma quello è. Ecco che gli arcieri sono i più temuti sul campo di battaglia, perché arrivano all'improvviso e tu non sai, non puoi prevedere chi colpiranno. Chi invece combatte con la spada, ce l'hai di fronte, sai chi colpirà. Colpirà te, perché ci sei davanti. L'arciere invece è imprevedibile, esattamente quanto la morte. Ecco perché probabilmente la morte uccide colpendo con la freccia. Ma se ci pensate, allo stesso tempo, la morte è l'anticupido, è il contrario dell'amore. Anche l'amore colpisce attraverso le frecce. Ed è probabilmente anche questo che li unirà in tutta una serie di contesti, da qui in avanti. Amore e morte ritornano ad essere compagni. Lui erano stati nella letteratura greca, no? Nella grande lirica greca. Ritorna in un momento in cui la letteratura greca, tra l'altro, viene ad essere riscoperta e tradotta, esattamente in questo stesso periodo, dalla metà del 1300. Per cui il fatto di avere dentro le chiese la morte raffigurata come un cavaliere che arriva all'improvviso e lancia frecce, inizia a non essere un elemento inconsueto, anzi, e intorno a sé naturalmente lascia strage di defunti. Oh, questa è un'acquaforte francese degli inizi del 1600. Sappiamo che è copia di qualche cosa di precedente e se notate abbiamo tutta una serie di elementi comuni ai sette peccati di Bruegel che abbiamo appena visto, per esempio. Là dove in Bruegel c'era questa tenda, questa casa matta, abbiamo la fornace con la bocca dell'inferno. Abbiamo il carro trionfale della morte, morte che, se notate, stranamente, rispetto a quella che è la tradizione iconografica, è un uomo. Lo capiamo proprio dalla muscolatura che ha ancora addosso. La testa è già trasformata in teschio. Arriva con una falce proprio da mietitura. Ovviamente il suo carro è un carro di morte, per cui ha le ruote dentate. Teschi come fulcro delle ruote, teschi all'apice del carro e anche queste mucche o questi buoi neri che trainano il carro sono morti a loro volta o sono di incredibile magrezza e passano con totale andamento casuale sopra alla gente e man mano che passano ammazzano, la gente muore in modo disordinato e casuale, perché la morte non ha premeditazione come l'amore. Potrebbe anche essere cieca perché colpisce alla rinfusa. E prima di entrare nello specifico, pausa caffè, così poi riprendiamo sempre con questo argomento molto lieto. Il settimo sigillo di Bergman, certo, che è tutto proprio in realtà, infatti mi ricordo di quella scena in cui c'è il pittore che dipinge proprio la scena della bestia, non a caso, poi alla fine fanno la danza, tutto farlo girare, così evitate di avvicinarvi al carro del trionfo della morte. A me non può dare oggi perché non c'è nessuno, no, non sono la sola. Infatti stavo cercando qualcuno che dovesse darmi. Io devo girare. Anch'io perché ho tutta questa Non mi ha fatto dare l'esame a Lazzarini perché ero l'unica a volerlo dare. Non ho fatto neanche passare di lì, ma questo è un altro episodio. E quindi sono stata lì un'oretta ad aspettare che arrivasse qualcuno, ma non arrivava nessuno e quindi ho detto vabbè, io vado a lezione a questo punto. Devo tornare domattina. Alessia ha detto di dirle che tarda ma che arriva, ha avuto contrattempo, non so cosa. Ma ha dovuto fare la spesa. È probabilmente vero. Non tra l'altro riuscita. Piaceravamo lì perché poteva dirlo e non si lavava tutta, cioè è idea. Vabbè. No, vado a prendere un caffè a questo punto. Sì. Ciao. Questa non è l'ultima lezione di Pasquini, vero? La prossima? La prossima. Allora, la prossima è normale, al mattino. Aspetta, vai. Se non ci metto 3 ore a trovarmi. Vado a cuore. Se io non faccio girare non è più comodo. Sì, infatti. Dopo 13 maggio. No, è perché avevamo visto tutti ammazzati qua, allora. Questo. Non leggere qua, c'è dentro. Spaventato. Cosa un po' strano. Quando prendo appunti mi sono dovuto scrivere bene. Quindi tutto dalla fretta alle mie note mi ha dato forte il mail. Sembra più che altro con la scrittura musicale, sembra molto calibrato. Invece mi ha colpito, non so vedere errori, ma poco senso. Ah, vabbè, questo è successo. Però no, gli errori veramente devo avere copiato. Se vedessi un po' di italiano, io però ho dovuto dire quello che ho fatto su Universale di Posto, mi confrontavo con la mia capisci Sofì? Sì, hai bisogno? Lì trovate il programma, la bibliografia, però e i testi che la nostra bibliografia, non c'è una dispensa. Perché loro hanno detto che le fotocopie si possono fare ma il 15% di cose. No, il libro arancione non è più edito, per cui può essere fotocopiato al 100%. Ah, ok. Così. Okay. No, ma si può prendere in prestito? Non ve lo danno, cioè. Scusate, non mettete d'accordo? Una fotocopia alle prime 20, 30 pagine. Vabbè, a questo punto ci mettiamo. Perché se no. Perché secondo lei fotocopiarlo tutto? tutto quello lo diamo alla copisteria? Magari. Io avevo chiesto addirittura che lo fotocopiassi. Può farlo la biblioteca, scusi, non la domanda stupida. No, non possono farlo. Io avevo chiesto che facessero proprio una fotocopia di tutto il libro, non essendo più editato. Lo metti in copisteria, lo metti. E poi per un'ora si sposta, si dà in copisteria, se lo stampano, certo. E poi si restituisce, ma è la fotocopia, non il libro. Non so, io ho iniziato a chiederlo a gennaio, sapendo che era libro di testo e sapendo che non è più edito e sapendo quindi che può essere fotocopiato. E nel dubbio, tra tutto quello che avrei potuto scegliere, apposta ho scelto quello che è presente in questa biblioteca. Poi quel libro l'ho trovato ovunque in biblioteca, anche non sì, ci sì, sia. Sì, è comodo. Però è qua. L'avete qui. Quindi il programma comunque della bibliografia la troviamo in biblioteca. Sì. Io poi darò l'esame a febbraio, perché a settembre ho già tre esami teorici e quindi pazzerò. Quando volete, ci mancherebbe. In ogni caso però ricordatevi che quel testo, insomma, può essere stato copiato. Va bene. Non ci sono dispense. Le dispense che ci sono solo per il triennio. Ah, non va bene. Per ma sono per contemporanea. Grazie mille. Ci sto pensando. Ecco pittura. Non una bella comedia. Le ho modificate in modo che venga il bello bianco su nero, cioè bianco. Una cosa ti chiedo. Oh. No, non lo devo dare perché è bello da rosa. Basta, io sto tenendo da rosa. Beh, ma chi dà un po'? Buongiorno. Ciao. Quanta acqua hai preso ieri? Troppa. Poi era chiuso, lo so, c'è la Lidl. Ah, pensavo che sono le e poi se lo dicevi subito, c'eravamo, eravamo lì. Lo so, ma non ci hai pensato. Poi non avevo sentito. Ora va bene. Qui hai fatto tutto senza portici. Basta. E poi ho voluto un sacco perché lo stesso io sono arrivata bagnata con una testa dei capelli così in piedi fradici proprio. già. Infatti oggi l'ombrello. Ce l'ho qui. E questo è l'ombrello. Non è vero. Ah, per tipo di l'esame adesso. E' così. Questo l'esame adesso. Ma dato che mette. Non ha dato l'esame. No, lo sta dando adesso. Adesso penso un po', guarda. Vabbè. Mentre studierà per te. Sto gli accenti, guarda. Dove portarla prima del mercoledì prossimo, giusto? Perché poi si deve consultarla per dire se posso fare l'esame. Questo non trovo. Ah, gliela mandi questi giorni. Gliela mandi No, me lo scrivo un attimo. Quelli degli altri così. Mi ricordavo che ti L. Michelangeli, tutto in minuscolo, tutto in minuscolo. No, senza punti. Solo per caso. Chiocciola. I O L. E poi l'inizio. Non ti sbagliare. Punto I. Quindi lo scrivo, ho guardato per PDF, quindi ho scritto il nome e cognome, giusto? No, okay. Lo stavo chiamando. Grazie. Prima. Ok, mi chiamo. Ah, ok. Grazie. Cosa dovevi vederla ieri a giorno? Cos'è che hai detto? Dico, ah, sì, certo, tu fa. Tu cosa fai? Cosa mi viene? Da dove vieni? Si è presa malissimo, io sto dicendo. Tu dove vieni ora? E io, che c'è? No, c'è. Dove tu? Cosa fai? E io, che cosa stai dicendo? Hai respirato troppo. Quello che tu troppi amici. Ma ieri sei andata, no, oggi non sei andata da semiologia? Sei andata a semiologia? No, no, venerdì. Viene venerdì comunque. Allora, non so se sono io. Tutta la settimana che penso di stare giù avanti. Non ricordo neanche che era sempre. Tu sei stato a colpa del giorno di festa. Sì, e da lunedì che ero convinta di iniziare martedì, invece ero martedì. Io invece ho scambiato per domenica. Ma sì, perché è stata una domenica alla fine. Hai capito tu? No, che so, che strana. Stiamo finendo la scuola, sono stessa. Allora, vedi, ci siamo noi quelle strane. Tu ti dici capelli, ecco. È vero. È un po' da ce l'avevi che... Sì, ma non ce la faccio. Allora, il prossimo anno girare, ci si mette d'accordo. Io vengo liscia e tu vieni ricca. Vieni rosa. Rosa! Lei è pelata. Ecco, quello non credo che sia. Che è l'ora? Rosa? No, eh? Rosa? Vabbè, sono i tuoi. I miei vanno da tre parti. Leone. Ma no, ma coerenza. Pensa che ho avuto anche la pessima idea di spazzolarle questa mattina. Dovevo farlo ieri sera. C'era una cosa. Aspetta, sì, ma io vado così. Io mi sveglio dei stati pietosi, perché se dormo tutta la notte da un lato sono tutte schiacciate. No, no, beh, sì, il momento dell'alzata è sempre devo traumatica, iniziare di deve essere rigorosamente privata. Ma tu sei stata sì. Ah, ok. Non vedi che rigolo. Strettamente. Però appunto se vi spazio devo spazzolare il giorno prima, per cui prima di dormire, non al mattino, perfetto. No, io cioè, si sistemano solo quando li lavo, perché sennò prendono le. Prendono la forma di come mi mette, cosa faccio? Questo dormire in sera. Terribile. Io morirei. Io amo spazzolarlo. A me anche piacerebbe tantissimo. Infatti il bimbo che guardo passa la mattina a spazzolare, basta, ci non con capelli del genere. Bello, sono finissimi. Mia madre me li spazzolava da piccola. Era terrificante. Ogni mattina tipo c'era il momento delle urla e mi spazzolava. Però no. No, erano perfetti. Però da quando me li gestisco io sono lasciati allo stato brale. Non hanno più l'istanza. No. No, per le pettinate mi ricordo. La spazzola dentro, gli dava la pettinata per togliere i nodi. Però cioè, se tu infili le mani... Io morirei con una cosa, non saprei. Io continuo a toccarmi con le mani. No. Però io li pettino rovesciando la testa, li scuoto. Ah, ok. No, purtroppo sì. Infatti alla fine io li pettino solo con quintalate di balsamo sotto la doccia. E basta. Esatto. L'unico modo. Sì. E ora ce li ho con. Una volta la famiglia arrivavo qui, ci mettevo... tre quarti d'ora abbastanza, andavo a pettinarmi, mi devo le ciocche e iniziamo qua, poi l'altra, poi insieme. Sei rimasto in una l'ombrello che esce dalla borsa. Sì, è bellissimo. Che ha gli stessi colori della borsa. È bellissimo questo ombrello che ti esce dalla borsa, perfettamente in tinta. Carino. Io arriverò. Tutto accompagnato, no? Sì, no, mi faccio un po' di siamo solo noi. Ma nessuno la voleva quest'aula quando sono arrivata. Poi abbiamo fatto ridipingere i muri, cambiare le tende, ogni tanto lavare per terra. All'improvviso è diventata una stanza ambita. È così. Sono tristissime, però sono utili e sono scomode anche. Io farei fatica a starci tutto il tempo che ci state voi, io non ce la farei. Però poi dopo, facendo il paragone con le altre aule, se un album si appoggia anche un pochettino. Ma soprattutto per scrivere, perché come si fa se no? Però... No. No, le altre accademie o hanno i tavoli su cui scrivere dove io sono stata o hanno tutto quanto, la sedia con la vita. Non fate prendere appunto. Perché uno si organizza con le tavolette, eccetera. Molto importante. Cosa dite, riprendiamo? Abbiamo ancora qualche minuto di tregua ai disperati? I trionfi, dicevamo, sono appunto una fante della letteratura che appassionano, piacciono. È così vero, una miscellanea di poesie lunghe di Ovi che verranno utilizzate in varie occasioni, in varie situazioni. I trionfi saranno anche i soggetti, pensate un po', utilizzati sui deschi da parto. Che roba è? Il desco è un vassoio, è un piatto. Veniva donato alle partorienti un vassoio. Idealmente era il piatto su cui veniva posato il bimbo alla nascita. Dimmi. Ho le mie. No, non ho le chiavi dell'accademia, no, non le ho. Mi spiace. Veniva donato un piatto, idealmente appunto era il piatto su cui il bimbo veniva posato al momento della nascita, ma nessuno ci ha posato i bambini sopra, vero? Gli artisti delle famiglie più importanti erano proprio chiamati a dipingere questi vassoi, questi piatti, per cui voi dovete immaginare dei quadri in realtà, no? Un po' come, non so, fino a qualche anno fa, si usava a regalare un tondo, magari d'argento, con l'immagine della Madonna che veniva appeso sopra la culla del bambino. Era una sorta così, no, di elemento anche di protezione sul bambino. La cosa interessante è che soprattutto a Firenze questi deschi, questi piatti, vengono dipinti dai pittori appunto che gravitano intorno alla famiglia Medici, non più con immagini sacre o ormai sempre meno con immagini sacre e sempre più con immagini di trionfo. È di buon auspicio nei confronti del bambino e noi conserviamo alcuni di questi piatti. È che non sempre sappiamo che sono piatti da parto, sono deschi da parto, li confondiamo con delle immagini tonde. Guardate che non è improbabile, potrei dire una sciocchezza, ma non è improbabile che alcuni tondi famosissimi che noi conosciamo, la Madonna della Seggiola, il tondo Doni, siano sì commissionati per la famiglia, ma non è improbabile che anche il tondo Doni avesse questo legame con il parto di Donna Doni, per cui la nascita del primogenito della famiglia Doni. Si commissiona un soggetto sacro e Michelangelo realizza quella meraviglia proprio a livello di costruzione del, appunto, tondo Doni. La Madonna della Seggiola è in un tondo, per cui anche qui dobbiamo fare attenzione, perché sono tante le cose che non abbiamo più il vezzo di riconoscere, non ce la facciamo a riconoscerli a colpo d'occhio, per cui nel momento in cui si commissiona un tondo, quel tondo potrebbe essere legato ad una nascita in tutto il Rinascimento, soprattutto fiorentino. Questo che avete davanti è un esempio ed è legato alla saggezza. La saggezza rientra, no, in una delle virtù. Ma la cosa che a me interessa è che vediate primo come è fatto uno di questi deschi da parto, uno di questi piatti che vengono regalati per il parto. Secondo, che notiate come vi siano un ponte da attraversare. Come questa santa martire, che è la giustizia, che è la temperanza, che è la virtù in generale, debba attraversare il ponte, andare dall'altra parte, come nella zona che lei deve lasciare ci si trovi in uno splendido giardino alberato, con un castello, per cui con una casa sicura, e con soprattutto una fonte, la fonte della saggezza, l'acqua della giustizia. Dall'altra parte lei troverà situazioni ingiuste, qui abbiamo una lapidazione, qui abbiamo dei fiorentini impazziti dalla rabbia, per cui la giustizia che deve saper mediare è la temperanza, appunto, no? Riuscire a trovare il giusto equilibrio tra gli eccessi. Altro desco che vi ho portato come esempio, che ci servirà poi per capire non solo il carro del fieno ma anche i trionfi della morte, è quest'altro. Qui abbiamo, se notate, un'immagine in linea, perché questo è un parto. Probabilmente è Sant'Anna, è il parto di Sant'Anna, è la nascita di Maria. Grandissimo letto rosso che ci siamo abituati a conoscere, l'interno di una stanza e le varie levatrici tutte intorno che accudiscono la partoriente e che le danno da mangiare appena ha partorito su questo desco. Vi ripeto, dubito che si sia mangiato sopra questi dipinti, ma simbolicamente è anche il piatto appunto che regge il bimbo, oppure che viene dato a chi ha appena partorito perché si fa mangiare, dopo partorito si faceva perlomeno mangiare, bere sicuramente, proprio per rifocillarsi dall'enorme fatica della nascita del figlio. E quindi qui abbiamo un soggetto pertinente, legato, ma se notate anche qui noi abbiamo delle scalette che ci fanno capire che stiamo entrando dentro questa stanza, ma questo ormai vi siete abituati, e abbiamo un giardino fiorito con degli uccelli acquatici, per cui che ricordano l'acqua e probabilmente sono anche preludio del battesimo. Ma la figura sul letto ha la barba? No, no, no, no, è soltanto è il decoro della tenda che sta dietro, no. No, non è questo il caso. E vi ho portato, non così casualmente, un desco famosissimo, perlomeno per gli addetti ai lavori, realizzato dallo Scheggia. Lo Scheggia è il fratello di Masaccio. È un artista che nasce in Toscana agli inizi del 1400, nasce nel 1406, muore nel 1486, per un uomo estremamente longevo. Il nome reale è Giovanni di Ser Giovanni, ce l'hanno chiamato come si chiamava suo padre, soprannominato lo Scheggia. Guardate che anche Masaccio è un soprannome. Erano fratelli, lavorano a bottega insieme per lungo tempo e, esattamente come Masaccio, anche lo Scheggia è tra gli artisti graditi a Famiglia Medici a Firenze, altrimenti non avrebbe potuto lavorare. Pensate che proprio a lui viene commissionato questo desco da parto. Guardiamolo prima e poi vi dico per chi. Montagne all'orizzonte, fontana di giustizia al centro. Ha la spada in mano, è una donna alata, porta un'aureola a 8 punte e la fontana ha delle trombe, sembrano trombe araldiche proprio. Dovrebbe ricordarvi vagamente le fontane che abbiamo lasciato proprio nel Giardino delle Delizie. Vagamente, vi ricordate la sfera rossa con questi pinnacoli? All'orizzonte città sicure, perché sono tutte città cinte, sono città murate, vegetazione, e a rendere omaggio alla fonte di giustizia sono tutti cavalieri. Per cui un modo, diciamo, per ribadire, per sottolineare il fatto che gli uomini al servizio di Famiglia Medici sono giusti. In primo piano, perlomeno nella parte che sta davanti a noi, noi abbiamo dei cani che stanno bevendo, si stanno abbeverando all'acqua, probabilmente che è fuoriuscita dalla fontana o che sgorga anche da sotto la fontana. È una zona fiorita e se notate la vegetazione in mezzo agli zoccoli dei cavalli è comunque una vegetazione floreale. Di chi è questo desco? Per chi è questo desco da parto che ci è stato ovviamente rubato e oggi è conservato al Metropolitan Museum? Questo è il desco che venne regalato a Donna Medici, pensate un po', per la nascita di Lorenzo il Magnifico. Un piatto di buon auspicio, giustizia e fama. Fontana alla quale, vi ripeto, gli uomini d'armi di Famiglia Medici si abbeverano, la fonte della giustizia. Fate attenzione perché in concomitanza con i trionfi noi inizieremo anche a vedere nascere a livello iconografico tutta una serie di fontane legate alla fontana dell'eterna giovinezza. Quale sarà la differenza tra la fonte di eterna vita e la fonte dell'eterna giovinezza? Beh, inizialmente, o perlomeno in parte, la distinzione sarà nella forma. Quella di eterna vita è ottagonale o circolare, risente proprio della forma del battistero. Quella invece legata all'eterna giovinezza è una fonte laica, se ci pensate, no? Legata ad un modo per sconfiggere la morte. Io bevo l'acqua dell'eterna giovinezza per non invecchiare e quindi morire. Quasi sempre una fonte esagonale, imperfetta, non ha la perfezione dell'ottagono. Tenete conto di tutti questi elementi perché ci serviranno tutti per leggere il carro del fieno. Per cui questo desco da parto porta in sé, diciamo, anche l'elemento del trionfo. E guardate che i trionfi in parte nasceranno in chiave laica come controcanto ai novissimi. Ne abbiamo parlato 15 giorni fa, no? I quattro novissimi. Vi ricordate? Morte, giudizio, inferno e paradiso. I trionfi, che vengono proprio strutturati, e Petrarca ce li dà tutti nella sua raccolta, sono ovviamente il trionfo dell'amore, il trionfo della pudicizia, il trionfo della morte, il trionfo della fama e il trionfo dell'eternità. Per cui amore, per cui il trionfo dell'amore, della pudicizia, della morte, della fama e dell'eternità. Sono cinque. Li abbiamo e ci servono un po' per capire. Questi erano stati realizzati e alcuni sono ancora presenti, custoditi a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, sempre realizzati dallo Scheggia e siamo, diciamo, nella parte centrale del 1400. Hanno una strana forma, cioè vanno proprio a foderare, diciamo così, delle parti aggettanti di una stanza, ricorda quasi una balaustra, che sporge, fuoriusciva dai quattro angoli della stanza. Era un po' come dei tavoli fissi, per capirci. Per cui la superficie, che non è grandissima, sapete, perché equivale più o meno al piedistallo di un tavolo, era dipinta da questi trionfi. Naturalmente i trionfi, riprendendo proprio la tradizione della festa aristocratica, ci danno i soggetti che vi ho menzionato sempre su dei carri e hanno ovviamente seguiti differenti. Cupido è attorniato da ragazzi e ragazze giovani. La morte, che adesso vi faccio vedere, è attorniata ovviamente da, qui si intravede, nobili che la precedono, i buoi neri e sempre su un carro, ma questo carro dello Scheggia ci dà come parte superiore una tomba, un sepolcro, un sarcofago. Ve lo faccio vedere dall'altra parte perché questo è montato. È proprio questa forma semicircolare che fungeva da piattaforma, da piedistallo per un tavolo probabilmente. Eccolo qui, ed è sempre, vedete, con la faretra in mano pronta a lanciare le frecce. Un sarcofago vero e proprio. Guardate che, vi ripeto, non è improbabile che questi carri fossero stati effettivamente visti, non identici naturalmente, ma simili, sfilare per Firenze in occasione dei trionfi, che poteva essere un'occasione anche del compleanno di un Medici. Mendicanti disperati, affamati, che la pregano, la supplicano di aver pietà di loro e quindi di ucciderli, e gentiluomini invece che non si curano di lei e che di conseguenza saranno i primi ad essere colpiti, stando davanti a lei. È un'immagine incredibilmente lugubre, che contrasta, se notate, in modo molto forte con la vegetazione che ha intorno a questa morte. Trionfo della fama, che ci dà una donna aristocratica molto bella, portata proprio su uno scranno, per cui è seduta su un trono e sempre trainata da elefanti in questo caso. Guardate che abbiamo testimonianza scritta di cortei in cui i medici sfilavano in occasione di varie situazioni, soprattutto per i matrimoni, dentro tutta Firenze, facendosi vedere dalla popolazione. Erano sempre dei cortei a tema. E abbiamo testimonianza del fatto che venissero utilizzati proprio buoi, cavalli, asini e anche elefanti per trascinare questi carri allegorici, accompagnati ovviamente da animali feroci, le pantere in modo particolare, tenute al guinzaglio, domesticate. Il trionfo dell'eternità. Eccolo qui, sempre montato in questo modo semicircolare, il trionfo dell'eternità, guardate un po' com'è, dovreste riconoscerlo. È una trinità con Dio Padre che regge la croce di Cristo. E tra la croce di Cristo e Dio Padre abbiamo la colomba che già abbiamo visto, se vi ricordate, proprio in Santa Maria Novella. Per cui è un'iconografia ricorrente e guardate che non è improbabile che anche questa immagine venisse portata in trionfo per le strade di Firenze. È sufficiente montarla su un carro chiuso con dei tendaggi e spinto qui da delle aquile. Ecco, voi le aquile immaginatevele di legno, grandi, abbastanza da contenere all'interno un ragazzino che possa pedalare. Abbiamo tutta una serie di disegni di draghi che hanno al proprio interno un servitore che pedalando spinge avanti un carro o muove una barca. Vi ricordate la Galatea che abbiamo visto, no? Di Raffaello? È lo stesso principio, identico. Ed erano carri ancor più stupefacenti perché erano trainati da animali inconsueti, desueti, finti naturalmente, perché erano delle vere e proprie macchine che nascondevano un ragazzino capace di pedalare. I pedali non erano come i nostri, vero? I pedali erano a leva, per cui dovete immaginarvi due tavolette con una parte centrale che voi andate a far ruotare, come se fosse la parte centrale dell'ingranaggio di un orologio. Il principio è lo stesso. Per cui trionfo dell'eternità. Tutto questo per arrivare ad un trionfo della morte, per cui al trionfo, quello più grande. Noi abbiamo una tradizione che ci dice, perché di fatto non l'abbiamo più, che il primo grande trionfo della morte affrescato sul muro di un cimitero fosse quello del cimitero di Parigi. E i viaggiatori ne parlano come di una cosa incredibilmente impressionante, spaventoso, maestoso. Questo va a spiegarci probabilmente perché il trionfo della morte, più antico perlomeno tra quelli che possediamo, è quello dentro al Camposanto di Piazza dei Miracoli a Pisa. Siamo in un cimitero, rientra in una tradizione, in un vezzo. Pisa, a metà 400, ha tutta una serie di scambi commerciali proprio con la Francia. Ecco che probabilmente un'usanza francese arriva in Italia. Questo trionfo della morte, che è incredibilmente grande perché è lungo più di 15 metri, per cui prende un'intera parete, viene attribuito, perché noi non abbiamo le firme, vero? Sono cose che vanno sulle pareti in luoghi pubblici, per cui non è che siano firmate, viene attribuito a buon amico Buffalmacco, siamo a metà 1400, per cui perfettamente in linea con i trionfi, anzi scusate, siamo agli inizi del fine 1300, inizi 1400, per cui in linea con i trionfi anche del Petrarca, e abbiamo tutta una sequenza che ci dà una parte centrale con una montagna, di cui ritorna questa idea del monte nella parte centrale. Abbiamo una chiesa, poi la vediamo, vediamo tutti i dettagli, era giusto per darvi la panoramica intera. Una chiesa sulla sinistra, sopra una collina, un cimitero con degli aristocratici a cavallo che arrivano e trovano queste tombe aperte con i cadaveri all'interno, e sull'altro lato, come se fossero due storie una contrapposta all'altra, noi abbiamo una scena molto interessante di una sorta di battaglia nel cielo tra angeli e diavoli, e nella parte sottostante abbiamo un convivio, cioè un raduno, un ritrovo tra aristocratici che si stanno dilettando in un giardino, dove naturalmente abbiamo anche la musica, c'è anche un musico che suona qui. Ecco, ho portato anche una serie di immagini in bianco e nero perché vi aiuta meglio a vedere, perché l'affresco è talmente rovinato da non essere così chiaramente leggibile. Qui abbiamo proprio una battaglia, vedete, tra angeli e diavoli. Tra loro il contendere sta nelle anime. Abbiamo proprio l'anima, che sono queste persone nude che vedete, che viene contesa tra angeli e diavoli. Se la tirano, a chi tira di più, vince un'anima e se la porta o all'inferno o in paradiso. Qui in basso noi abbiamo proprio un gruppo di cortigiani, lo capiamo proprio dagli abiti incredibilmente sontuosi, che ascoltano musica e che probabilmente si dilettano in quello che è proprio tipico, no, dell'umanesimo italiano, l'hortus conclusus, cioè questo spazio chiuso, privato, il giardino dove si cantano le meraviglie della Madonna come donna, come signora del giardino. Dall'altra parte invece abbiamo appunto questi aristocratici che arrivano a cavallo, probabilmente durante una battuta di caccia, e si ritrovano all'improvviso davanti a tre bare. Ritorna qui un po' l'idea della leggenda dei tre vivi e dei tre morti, perché sono proprio tre le bare e sono tre i cadaveri. Com'era? Era sul muro esterno del cimitero, vedete? Per cui è così rovinato perché si è preso qualche cosa come 600 anni di pioggia, sole, grandine, vento e quant'altro. Oggi è rigorosamente al chiuso, è stato coperto con delle lastre di vetro nella parte superiore, però capite che il danno maggiore è stato fatto. Rientra proprio nella tradizione del trionfo della morte, dell'essere dipinto in esterno. Questo enfatizza ancora di più quest'idea di esorcizzare la morte, di tenere lontano la morte. È anche un monito per chi visita, no, questi luoghi. Vediamo un po' di dettagli. Le tre bare, e guardate che sono abbastanza impressionanti. Perché? Perché uno sicuramente è morto per acqua, mi spiace sempre per queste descrizioni poco piacevoli, per cui ha la pancia gonfia, sta fermentando. Un altro ha tutta una serie di serpenti che lo stanno mangiando, serpenti, lucertole, e l'altro è già scheletro, è come se avessimo tre fasi della decomposizione. E abbiamo veramente una serie di personaggi altolocati che arrivano, ne sono turbati, ne sono spaventati. Sicuramente una battuta di caccia, perché abbiamo anche dei levrieri, per cui i cani che solitamente accompagnavano in queste situazioni. Ecco qui magari si vede un po' meglio. Anche qui, come dicevamo, per altre situazioni, non è improbabile che i soggetti che vediamo fossero personaggi realmente esistiti e che quindi questi personaggi che noi vediamo non siano di fantasia, ma siano figure realmente esistite. Ecco qui, vedete queste bisce che si stanno mangiando i defunti. Oh, naturalmente, è vero, tenete anche conto della tipologia di sepoltura. Erano casse di legno grezzo, tagliate malamente, dove si metteva dentro il cadavere avvolto in un lenzuolo, per cui non era così difficile vederle aprirsi o vederle aprire dopo la decomposizione. Si tengono tutti un fazzoletto sul naso, hanno preso l'angolo del mantello per non sentire il fetore della putrefazione. Anche i cavalli sono stravolti dall'odore e ci vengono proprio fatti vedere con questi musi allungati che odorano i cadaveri. Il prossimo anno facciamo qualcosa di più allegro però, eh? È tutto il corso che parlo di morti e di putrefazioni, di mostri, non ne posso più. E abbiamo anche delle gentildonne che si girano per non vedere questo spettacolo così terribile, così, diciamo, impressionante. Ma guardate che l'enfasi proprio del fazzoletto sul naso è interessante, perché è come se fosse una fotografia di questa scena. Cioè non è una scena di genere, non è impostata, è una scena che ci vuol dare proprio l'immediatezza della situazione. Nella parte alta noi abbiamo dei monaci e questo rientra in una leggenda appunto legata proprio al Camposanto di Pisa, dove si dice che appunto fuori dalla città ci fosse un monaco particolarmente santo, saggio, verso il quale si andava a chiedere consigli e aveva anche delle capacità taumaturgiche, cioè era un guaritore. E viene, secondo Federico Zeri, viene proprio ritratto nella parte alta come così uomo di sapere, uomo saggio, che guarisce dalle malattie, ma che comunque vivendo come un eremita ricorda anche a chi va a visitarlo che la morte è sempre in agguato, è sempre vicina. Guardate che ci sono alcuni ordini monastici che ancora oggi, quando si incontrano, si salutano dicendosi ricordati fratello che devi morire. È un modo ameno, no? Per salutarsi, che ben si presta a questo corso, ma che capite ricorda sempre all'uomo che deve, nel senso cristiano del termine, comportarsi in modo retto, perché la morte potrebbe giungere in qualsiasi momento e l'anima deve essere sempre pulita, deve essere pronta per andare in paradiso. Cani anche qui, i cani proprio da caccia che seguono questo seguito. E vediamo l'altra parte, così non stiamo ore e ore su questo, vi faccio vedere i particolari dettagli appunto di queste mani tenute a tappare il naso, a turare il naso. Viene indicato proprio, guarda i cadaveri che sono dentro queste bare. Vediamo un po' di particolari. Ecco, questi sono appunto i gentiluomini. Ovviamente tra loro ci sono dei falconieri che hanno questi falchi senza copertura agli occhi. Questo, vi ripeto, ci dimostra che è una battuta di caccia. Scusa, questo ordine adesso a Pisa. Sì. Ancora sul muro. Sì, sì. È stato soltanto protetto, appunto mettendo un tetto e chiudendo questo spazio. Voi di fatto entrate in una stanza, non siete più all'aperto. E appunto la cosa particolare è la presenza anche di figure femminili, a dimostrazione che queste battute di caccia erano già un vezzo di corte, in senso ampio, non solo per uomini, anche per dame. Ovvio che la dama non andava, vero, ad incoccare frecce e ad ammazzare animali, partecipava alla cavalcata e a lei poi venivano portati gli animali uccisi, proprio come trofeo. Animali già ammazzati, sono anatre, vedete, portati proprio dai battitori e infilate dentro i bastoni, come abbiamo visto nel matto, nel figlio il prodigo di Bosch. Alani e Levrieri, appunto, sono cani che denotano l'aristocrazia e che seguono appunto le battute di caccia, sono trattati come cani da caccia. L'altra parte è veramente caotica rispetto a questa parte dove abbiamo i cavalli ordinati, tutti pettinati, tra l'altro con le criniere ondulate, molto caotica proprio per questa lotta, questa battaglia per le anime. Ecco, vedete oggi com'è. C'è stato proprio un parziale strappo, non totale, e comunque è rimasto sul muro dove è stato fatto. Eccolo qui, in bianco e nero riusciamo a capirlo meglio. Federico Zeri l'ha studiato per molti anni e quindi ne conserva nel proprio studio, ne conservava nel proprio studio tutta una sequenza fotografica per noi interessantissima. Guardate, vi ricordate quella morte a cavallo che abbiamo visto poco fa, no? Con i capelli bianchi lunghi? Qui ritorna, e siamo a chilometri e chilometri di distanza, ritorna questa volta in volo con ali di pipistrello. Non è a cavallo, ma ha la stessa falce e soprattutto ha gli stessi capelli lunghi, sembra quasi una strega, lunghi capelli e questa espressione proprio severissima, passa a falcidiare, a uccidere. Qui abbiamo una catasta di cadaveri ed è proprio da questa catasta di cadaveri che i diavoli, come gli angeli, vanno ad estrarre le anime. Sembrano tutti bambini, non sono bambini che stanno portando via, vero? Non sono sopravvissuti, sono le anime di questi defunti. E fuori escono, poi vi faccio vedere un dettaglio, dal collo. Perché ovviamente dura far uscire un bambino a livello iconografico da una bocca, ma capite che è questa la zona dalla quale esce l'anima, ancora nella mentalità dell'epoca. Guardate che meraviglia questo frate ciccione nudo che viene conteso tra un diavolo e un angelo. E tutti, se notate, hanno le anime prese malamente se sono diavoli, portate invece con gran gentilezza se sono angeli. Diavoli naturalmente che sono diavoli quattrocenteschi ormai, per cui ricordano moltissimi pipistrelli, hanno corna quasi sempre di bue in questo caso o di capra, zampe di capra ancora e ali di pipistrello, scurissimi, marroni, neri, alcuni di questi oggi risultano blu, non perché siano stati dipinti in blu, ma perché vi ripeto è il viraggio del nero. La morte, eccola qui, oggi incredibilmente sbiadita, per cui capite il bianco e nero, fortunatamente c'era e ci ha aiutati moltissimo, ci ha, nel senso tutti, proprio anche per riuscire a capire e vedere. Vi faccio vedere il gruppo di aristocratici sulla destra, perché ci serve. Noi abbiamo uno strumento musicale qui che viene utilizzato ed è un salterio. Abbiamo già incontrato salteri? No. È uno strumento musicale fratello del liuto e, se volete, per certi aspetti anche fratello dell'arpa, perché non è altro che una scatola, voi immaginatevi una scatola di legno di queste dimensioni, fonda 20 cm circa, solitamente suonata tenendolo sdraiato e pizzicato. In Oriente è uno strumento ancora oggi molto praticato. Ha tutta una serie di corde di metallo fissate con un chiodo a un'estremità e con una vite all'altra estremità, in modo da poter accordare, tendere o rilasciare la corda. Viene suonato pizzicandolo o con le unghie, come se fosse una chitarra per capirci, o con un plettro, che era una specie di penna di metallo. È uno strumento aristocratico, polifonico, cioè può fare più suoni contemporaneamente, e vi ripeto, è fratello del liuto per certi aspetti e dell'arpa, per cui ha più o meno lo stesso significato di questi altri due strumenti di cui abbiamo già parlato tante volte. e incontriamo un altro strumento musicale che viene suonato per intrattenere gli aristocratici, che è una viella, la bisnonna della viola, una sorta di grande violino a sei corde che veniva suonato più o meno come oggi si suona un violino, più o meno, Quindi con l'archetto? Con l'arco, sì, viene suonato con l'arco. Veniva appoggiato qui, proprio su questa parte del collo, tenuto in avanti e suonato con l'arco in questo modo. Sono due strumenti quindi a corda, sono due strumenti aristocratici, sono due strumenti non legati al demoniaco. Tra i personaggi che siedono, ecco qui, vedete, ed è tra l'altro ci viene proprio fatto vedere, una cosa che a me ha colpito, ma rientra nelle mie follie, è che questa dama che sta suonando ci fa vedere tre dita, no? Un indice, indice e medio. Cioè sono tre le dita che fuoriescono dalla mano. Alcune dame invece ci danno queste tre dita dove il secondo dito è il più importante, viene avvicinato alle labbra nel segno di o ascoltare con interesse o tacere. E questa è una cosa che a me colpisce perché ci sto lavorando, ma ci sto lavorando su un altro trionfo della morte. E queste dita che rappresentano sempre il numero 3 o che vengono contate e danno il numero 2 o il numero 3 sono costantemente presenti. E qui bisognerebbe capire perché questo 3 sia così importante. Non ha niente a che vedere sicuramente con la Trinità, ma proprio niente, non c'entra nulla. Forse potrebbe avere a che fare con le virtù e potrebbe essere la carità questo numero 3. Le virtù teologali, fede, speranza e carità, da sempre le recitiamo così, fede, speranza, carità. Potrebbe essere la caritas, la pietas, il fatto di aver pietà, perché siamo in una situazione di morte. La pietas prevede l'aver compassione anche, no? E significa anche accettare i difetti degli altri, essere compassionevoli, pietosi. Oh, guardate come sono le ali della morte, sono proprio uncinate, ricordano un po' le ruote uncinate che abbiamo lasciato nei carri della morte di prima, e sono ben peggiori delle ali di pipistrello, per cui sono praticamente delle armi anche queste ali. Guardate le unghie dei piedi e le unghie delle mani, sono proprio di mostro, no? Portate via a quella che poi nella storia sarebbe diventata la letteratura horror, il film dell'orrore, questi mostri che si trasformano con le dita lunghe e gli artigli. Le dame sono sette, potrebbero essere le grazie, e tra loro siedono dei falconieri, uno all'inizio e uno al centro, che sembra proprio il padrone di tutto questo. Ci sono, vedete, tutta una serie di dita che indicano qualche cosa. Cani che vengono coccolati, pare proprio una scena idilliaca, un po' anche di pettegolezzo. Tra dame, quelle che sono in piedi dietro sembrano raccontare dei segreti, bisbigliare qualcosa. Come se potesse esserci un mondo idilliaco, sereno, che non viene toccato da tutto il caos della morte, dal disordine, dal frastuono, oppure come se anche questo locus conclusus, questo giardino sicuro, potesse essere attaccato dalla morte stessa, perché la morte si sta buttando a capofitto proprio su questo gruppo di persone, che sembrano non sentire minimamente, vi ripeto, tutto il caos che hanno sopra la testa di questa guerra, di questa battaglia. Tutto lo stesso affresco. Tutto è lo stesso affresco, vi ripeto, è lungo più di 15 metri. Qui è una narrazione lunghissima. Ecco, vedete, qui i piedi dell'anima stanno proprio uscendo dalla bocca di questo defunto. per cui l'anima viene proprio tirata fuori, così come ancora ci raccontava Omero. Per cui è un modo di pensare questo che si perpetra veramente per secoli. E volevo farvi notare che in basso a sinistra c'è un gruppo di storpi. Sono lebbrosi, zoppi, ciechi. Un cieco, vedete, menomato, non ha una mano. Lebbrosi che non riescono più a camminare perché i piedi si consumano con grande facilità e che usano queste strane stampelle a quattro rebbi, a quattro paletti, diciamo, sui quali si appoggiavano per camminare con le braccia. Lunghe stampelle, sono cattivi, guardate, sono brutti, rientrano proprio nella malvagità. Ricordano quello che spesso vedremo in, Giuda, dei tratti pesanti con il naso grosso, gli zigomi sporgenti. La non bellezza, ricordatevi, rientra sempre nella malvagità e stanno invocando la morte, sperano di morire, la supplicano affinché li guardi e li porti via. Alcuni di loro portano l'assenza del naso, sono lebbrosi, le parti molli non sono le prime a cadere. I cartigli che vedete descrivono proprio dei passi tratti dal Trionfo della Morte, che è un testo. Nei trionfi di Petrarca, uno di quei trionfi è appunto il Trionfo della Morte. Abbiamo prima visto proprio, no, la miniata della pagina dell'inizio, dell'incipit del Trionfo della Morte. Vi facevo notare questo perché poi, spostandoci a livello geografico, ci spostiamo vicino a Bergamo, perché non siamo molto lontani di qui, a Clusone, vi prego, non è Cluson, come qualcuno ogni tanto mi dice, siamo a Bergamo. Sulla facciata dell'oratorio dei Disciplini, era un ordine, vero? Noi abbiamo un altro Trionfo della Morte, è datato 1448. 1448. Sì. Ci dà una danza macabra e è attribuito, non è certo, non è firmato, è attribuito a Giacomo Borlone, un artista locale. Questo è il Trionfo della Morte, appunto, dell'oratorio dei Disciplini. L'oratorio, vero, è questa costruzione a ridosso della chiesa. È in esterno, ancora oggi è in esterno. Anche questo, vero, parzialmente rovinato, anzi, gravemente rovinato, soprattutto nelle parti sottostanti, che sono quelle meno protette da un parapetto che sta sopra. È decorato come se fosse una sorta di casa. Vedete, una struttura architettonica con un tetto a capanna salienti, e il Trionfo della Morte qui è interessante perché dovrebbe ricordarvi la resurrezione del Mantegna che abbiamo visto parlando di macchine sceniche. La morte, che non è sola, ha degli aiutanti in questo caso, tiene proprio i cartigli su cui è scritto il Trionfo della Morte. E gli aiutanti sono coloro che uccidono al posto suo, sono scheletri a loro volta. Questo è interessante perché uno tira frecce, ne incocca tre alla volta, faretra, vedete, porta frecce e arco. L'altro è interessantissimo perché voi troverete scritto in varie zone, in vari testi, che porta addosso un archibugio. Gli archibugi non erano ancora stati inventati, vero? La polvere da sparo non viene ancora utilizzata come offesa. In realtà questa è una cerbottana da guerra. per cui si infilano le frecce avvelenate di solito e si soffia. È proprio una ciarbottana a fucile. Non traetene spunto, vero? Oh, perché dico che dovrebbe ricordarvi la risurrezione? Perché la morte fuoriesce proprio da un sarcofago, così come in tutto il 400, in parte del 400, noi vediamo fare al Cristo, Mantegna, Piero della Francesca, Masaccio e molti altri. Il sarcofago è pieno zeppo di cadaveri però, non è vuoto come quello di Cristo, e sono di varie entità, nel senso che entità, sono di varie fasce sociali. Noi abbiamo il monaco povero e abbiamo anche il papa. Questo a dire che la morte è uguale per tutti, non guarda le fasce sociali. Abbiamo una serie di santi che non temono la morte, anzi la invocano. Abbiamo dei servitori, sovrani, di etnie diverse, questo è un arabo, per cui è un musulmano, e questo invece è un sovrano nordico. Abbiamo dei papi, abbiamo dei monaci, e la cosa interessante è che abbiamo qui, se notate, sia a sinistra che a destra, un vescovo e un papa che stanno portando doni alla morte. È un modo per rabbonirla, per tenerla buona. Le si portano dei doni che sono solitamente gioielli. Si cerca di comperare la morte. Sulla sinistra, e questa è un'altra cosa interessante, abbiamo una scena di caccia. Aristocratici che stanno cacciando con il falcone, con i propri cani. Il che significa, ed è la seconda volta su due che vediamo, che la caccia è legata alla morte, probabilmente perché utilizza le frecce per uccidere, e perché si va a cavallo, o perché è facile morire andando a caccia. La caccia è l'esercizio per la guerra, vero? Da sempre. Ma c'è, diciamo, questa vicinanza. La cosa interessante è che sotto noi abbiamo una danza macabra, per cui abbiamo persone vive che si alternano in modo assolutamente rigoroso a degli scheletri. E gli scheletri hanno le gambe con una postura bizzarra, per cui stanno danzando. È normale che abbiano tutti gli dischi divisi? Cioè, perché li rappresentavano così, li disegnavano così, con gli dischi separati? Sono separati perché noi dobbiamo pensarli in contemporanea. Per cui in questo caso il sotto e il sopra, io devo pensarlo contemporaneamente. Viene diviso tra sotto e sopra per aiutarmi a vedere, ma di fatto è una contemporaneità. È come se tutto intorno a questa scena noi avessimo un giro tondo di danza macabra. Vi faccio vedere dei dettagli. Ma anche questi all'esterno? Sì, sì, è tutto all'esterno. Ah, questo volevo farvi notare. Vedete questa parte che sembra tagliata? In realtà questa è una finestra di cui si conserva la tamponatura. Nasce proprio così, e sicuramente c'era anche per l'altra finestra che era qui. Beh, sicuramente era una finestra più corta, meno ampia. Questo è andato perduto, questo invece è rimasto. Per cui viene proprio montato o smontato a seconda delle situazioni. Qui vedete proprio che è un esterno, vedete? La chiesa è qui dietro, per cui questa è proprio quella che noi oggi chiameremo la canonica. Ecco. E sicuramente qui, in questa zona, c'era il cimitero. Ecco probabilmente perché è stata dipinta qui. Ricordatevi che il cimitero da sempre era a ridosso delle chiese. Questo era lo schema. Si immagina che appunto ci fosse una scala che conducesse fino a questa porta, con tutta una serie di altre rappresentazioni, tra cui quattro novissimi, per cui morte, giudizio, inferno e paradiso. Ma di questa zona non abbiamo assolutamente nulla. Danza macabra e trionfo della morte. centro, eccolo qui. Lo ingrandiamo così vi rendete conto che appunto stanno portando doni e sono quasi tutti gioielli, monete d'oro ed argento, vedete? Tre vassoi su quattro e corone. Stanno tutti donando quanto di più prezioso si possa avere alla morte, per non averla naturalmente. A fuoriuscire dai cadaveri abbiamo ovviamente serpenti, vermi, rospi, scorpioni, cioè tutti quegli animali ai quali ormai dovreste essere abituati, no? Ormai con tutto il bosco che abbiamo visto, questa è un'inezia. Guardate come sta sparando questo scheletro, sta proprio infilando delle freccette dentro e poi si soffia. Non ha ancora il percussore, non è a sparo. La morte è incoronata, per forza, perché è un trionfo, per cui è come se fosse vincitrice, è regina della situazione. Corona e manto incredibilmente decorato. Sdentata naturalmente, è vero? Perché una morte che si rispetti è sdentata, mancano dei denti, sono caduti. Guardate che non è improbabile che la corona della morte sia sorella della crestatura dei diavoli. Vi ricordate i diavoli crestati con i capelli che sembravano quasi con il gel, no? Con queste punte rosse o con fiamme in testa? Questa corona potrebbe essere in un certo senso sorella della crestatura dei diavoli. E qui appunto ci sono tutti i moniti del trionfo della morte, perché il giorno in cui la morte giungerà dovrai pentirti, sii tu pronto affinché tu possa andare, diciamo, dalla parte giusta. È proprio, vedete, un fucile come quelli che si usavano per giocare. Ma professoressa, io non ho capito una cosa. Perché gli scheletri hanno tutti questi sbagli anatomici? Cioè non c'erano ancora stati o non c'erano studi? Oh, questo è un bel problema. È un problema. Devo degli ischi separati, perché hanno rappresentati due da cui partono le gambe e poi tipo mancano un sacco di cose. Ah certo, perché? Perché era vietato verosezionare i cadaveri. Ovviamente chi li studiava, pensate a Leonardo per esempio, ma pensate allo stesso Michelangelo, avevano sicuramente degli amici tra i becchini, e sicuramente a pagamento gli venivano dati dei cadaveri da sezionare in gran segreto, perché rientrava nelle pratiche di stregoneria. Un'autopsia non era permessa neanche a fini di studio. Era considerato blasfemo, significava andare ad intaccare un corpo che non avrebbe più potuto resuscitare in modo uniforme. E quindi si andava a compromettere la resurrezione di quell'anima, secondo la mentalità dell'epoca naturalmente. Ecco che gli studi anatomici veri vengono fatti sempre segretamente e sempre rischiando moltissimo. E non a caso sia Michelangelo sia Leonardo da Vinci non erano cattolici praticanti ferventi. Questo ci aiuta a capire che non avevano grosse difficoltà nel sezionare un cadavere, non temevano la morte dell'anima andando a sezionare un cadavere. Ecco che allora ci sono degli elementi assolutamente sbagliati, perché non ne hanno conoscenza diretta. Quindi magari li copiano da altri scheletri, perché comunque gli scheletri se ne vedono diversi, se non è la prima volta che si vedono, no? Sì, ma sono tutti di fantasia. Non hai da nessuna parte uno studio anatomico vero. Mancano tutte le parti molli, ti mancano tutte le cartilagini. Sì, proprio anche l'una, le rotule. Sì. E qualora anche avessero potuto vederlo uno scheletro, no? Proprio perché era facile che queste tombe si aprissero. Erano tutti scheletri che erano già stati visitati da animali, i topi in modo particolare, quindi tutte le ossa piccole erano le prime a mancare, la rotula in testa naturalmente, no? Che è proprio per come è fatta, del tessuto molle all'interno, e quindi viene mangiato dai topi con passione, ma basta. non ne posso più. Il teschio è quello che resiste di più, e infatti è certo, anche perché il cervello lo mangi e lasci lo scheletro. Va bene, fortuna che oggi io non ho pranzato. Tutto questo per arrivare al grande trionfo della morte, che è l'anticamera del carro del fieno. Voi direte, non se ne può più, ci arriviamo a questo carro del fieno, sì o no? Il trionfo della morte di Palermo, uno dei più famosi, uno dei meno studiati, come sempre, uno dei meglio conservati, anche questo assolutamente, rigorosamente realizzato in esterno. Era sulla facciata di Palazzo Sclafani, il palazzo che è vicino alla cattedrale. Il primo palazzo, se non ricordo male, la prima sede dell'Inquisizione palermitana. Poi si spostò, perché il palazzo non era alto abbastanza per buttare i poveretti dal tetto. È uno degli affreschi più interessanti in assoluto di metà 400. Siamo intorno al 1446, o perlomeno siamo dopo il 1446. Perché? Perché alcuni elementi che sono presenti in questo trionfo della morte richiamano la processione di cui vi dicevo poco fa. L'idea appunto di muoversi nella notte, l'idea di questa processione di flagellanti e disperati che girarono di notte per le vie di Palermo invocando la fine della peste. È enorme perché ha forma quadrangolare ed è poco più di 6 metri di larghezza e circa 6 metri e mezzo di altezza. Era in alto, oggi la potete vedere ovviamente in basso, perché ovviamente chi allestisce non pensa mai a come è stata dipinta una cosa, per dove è stata dipinta. E la potete ammirare meravigliosamente da un ballatoio, per cui standoci proprio sopra. Ballatoio, insomma, un rialzo che sta di fronte a questa parete. Era la cantoria della chiesetta di Palazzo Abatellis, oggi è conservato dentro Palazzo Abatellis, che è un museo, splendido museo tra l'altro. Cos'ha di particolare rispetto a tutto quello che noi abbiamo già visto? E qui vi giustifico anche il desco da parto che siamo andati a vedere. Abbiamo la fontana. Ed è la fontana, se notate, probabilmente dell'eterna giovinezza, perché è una fontana esagonale. Ha una sorgente d'acqua che fuoriesce, ma è una sola. Fossero quattro, noi sapremo che ci ricordano il trono della Gerusalemme celeste. Scena di caccia, perché qui ritroviamo ancora una volta dei levrieri tenuti a guinzaglio, per cui sono proprio cani legati alla caccia, e dei barboni, cani, vero barboni, e quindi sono cani che all'epoca appunto venivano usati per cacciare, pensate un po', per noi oggi sono cani da compagnia. Musica. Abbiamo una cetra, perché una piccola arpa, e un liuto, per cui ritorna l'idea di questi strumenti che abbiamo già incontrato in Bosch nell'Inferno musicale. La morte arriva a cavallo, e il cavallo è morto quanto lei, perché è scheletrico, vedete? Oh, guardate che questi segni sono i tagli praticamente che vennero effettuati per strapparlo dalla facciata di Palazzo Sclafani per rimontarlo appunto su questo grande pannello che è dentro oggi Palazzo Abatellis. Noi continuiamo ad avere nobili, soprattutto donne, sulla destra, per cui posizionate esattamente là dove le abbiamo lasciate a Pisa, nel trionfo della morte di Buffalmacco, in basso a destra. La catasta di morti qui è incredibilmente ordinata, perché sono messi uno sopra l'altro, testa, piedi, testa, piedi, testa, piedi. si guardano praticamente, o quasi, e sono 9 cadaveri, e ci danno tutta la gerarchia religiosa. Ricordatevi che a Palermo all'epoca c'erano 4 culti diversi: il cattolicesimo, l'ebraismo, il rito musulmano e il rito ortodosso. E qui li abbiamo tutti. Abbiamo rabbini, un rabbino, abbiamo un imam con tanto di turbante, vescovi, monaci, e anche qui non si fa torto a nessuno, perché abbiamo sia un domenicano che un francescano. Gli ordini ci sono tutti e due. Sulla sinistra abbiamo un gruppo di disperati. Sono poveri, mendicanti, alcuni lebbrosi, e ritorna proprio quel tipo di gruccia bassa a 4 piedi che abbiamo lasciato sempre a Pisa. La morte colpisce con le frecce. Alcuni degli aristocratici sono stati colpiti e stanno morendo. Tutti i morti che ha sotto gli zoccoli il cavallo della morte sono morti per freccia. Tutti hanno una freccia piantata. Ancora una volta, gli storpi sono a supplicare la morte e seguono la morte, le vanno dietro nella speranza che si volti e li colpisca. Guardate che questa è la stessa impostazione del carro del fieno di Bosch. Disperati dietro e aristocratici davanti, ma Bosch ovviamente poi ci metterà anche dell'altro. Quindi gli aristocratici danno i doni per... Qui gli aristocratici non donano niente, però potrebbero farlo, perché hanno, molti di loro, ecco, giusto per darvi le dimensioni, molti di loro hanno dei sacchetti pieni d'oro, probabilmente, alla cintura. Anche le dame hanno dei sacchetti. E sono piccoli sacchetti, sono gli antenati dei portamonete proprio. Tra l'altro è stato posizionato, pensate, in quella che era la cappella di Palazzo Abatellis, e di conseguenza tutta la parte superiore è aperta. Là dove c'era una piccola cupola, oggi c'è una splendida vetrata, e quindi è costantemente illuminato dall'alto. È coloratissimo, non è assolutamente bassa la tavolozza, è proprio il colore è questo. Una delle cose che colpisce di più in assoluto è il cielo di questo trionfo della morte, perché è realizzato come, non so se avete presente, alcune alghe sono in questo modo. Adesso ve lo faccio vedere. Vedete? Ed è anomalo, non esiste nel sud Italia un cielo simile. Per poterlo trovare noi dobbiamo andare a trovare Pisanello, e quindi siamo tra la Francia e Verona. I cani, tra l'altro, per come sono dipinti, sono incredibilmente simili ai levrieri che dipinge Pisanello. Questo è un problema che ancora non è stato risolto, che nesso ci sia tra quest'opera e Pisanello, o perlomeno la scuola, diciamo, lombarda, veneta dell'epoca, non si sa, non si conosce. La vegetazione è ricchissima, e pensate, anni fa un esperto, un botanico, fece tutta un'analisi di tutti i fiori presenti e si rese conto che c'era un'analogia fortissima con le costellazioni, e questo sarebbe un momento esatto di un cielo sopra Palermo. E ecco perché si è certi che sia dopo una determinata data, perché quel cielo corrisponderebbe più o meno proprio ad un cielo dell'estate del 1448. Si tratta di capire che cosa accade in quel giorno, perché non lo sappiamo. Per cui niente di quello che avete davanti è casuale, anzi. I morti, eccoli qui, guardate. sono tutti ritratti proprio, come se fossero persone effettivamente esistite, e forse lo furono, ovviamente non amate dal pittore. L'imam, con tanto di turbante ed è anche coronato, per cui è potentissimo. Veste di giallo, vero? Non a caso. Il giallo è il colore proprio legato al demoniaco. Il giallo è il colore che soltanto gli ebrei potevano fare. Le tinture dei tessuti gialli erano unicamente affidate al culto ebraico o al culto musulmano, ma più al culto ebraico. Da qui poi la stella di Davide nella Seconda Guerra Mondiale, gialla, per esempio. È il colore che Giotto dà al manto di Giuda nella Cappella degli Scrovegni. È il colore del tradimento. Guardate che anche Michelangelo utilizza il giallo per andare a distinguere gli ebrei in Cappella Sistina. Per cui proprio è un topos, è una regola, è una legge. Alcuni di questi cadaveri hanno la testa rivolta all'indietro. Probabilmente dipende da una deformazione. Cosa interessante, guardate, molte delle mani, anche dei defunti, indicano il numero 3, ma non è un 3 benedicente, è un 3. Molte delle dame, come in questo caso, stanno contando e ci danno il terzo dito e lo indicano con il secondo. È incredibile tutta la presenza e l'importanza delle mani che c'è tra questi personaggi, e questa è una cosa ancora tutta da scrivere. Guardate un po', lei è ancora viva ed è sicuramente attorniata da delle dame, delle amiche, delle sorelle, sono tutte incredibilmente riccamente vestite, sono abiti importantissimi e sono tutte ingioiellate. Bordi di visone in questi abiti, di zibellino in alcuni casi. Guardate che cosa stanno facendo tutti quanti intorno. Vedete che stanno tutti contando. Questa è una cosa che io non riesco a capire e quindi ci sto lavorando. Secondo dito, vedete? Stanno contando le persone dietro di lei, lei, chi le sta accanto, e tutti i numeri che ci vengono dati sono o 2 o 3. Potrebbe essere la seconda fase della vita, no? La maturità, e non ancora la terza, le tre età dell'uomo. Ma allora perché farlo fare anche ai morti? Una di loro viene colpita al collo e viene immediatamente assistita da una dama incredibilmente elegante, guardate, vestita in broccato bianco. Questo tipo di tessuto è di fattura francese, per cui anche questo è uno dei tanti quesiti, ma questo forse stupisce di meno perché i commerci di tessuti erano rapidissimi in tutto il Mediterraneo. Vedete che hanno dei borsellini? Sono dei portamonete o dei portaveleno, dei portaoggetti, e sono tutte riccamente ornate. E fanno proprio gruppo, tanto quanto... Ma la dama bianca non è morta? No, assiste un'amica che sta morendo. Questi sono appunto i disperati sulla sinistra. Vedete, alcuni sono senza mani, perché sono lebbrosi, altri stanno pregando. Una cosa interessante, mescolati tra loro nella parte che sta dietro, ci sono due che sembrano degli scrivani, dei cronachisti. Sono vestiti in modo elegante e hanno un libro e uno stilo. Sembra proprio che stiano scrivendo quello che accade. Guardate, questa che sembra un'onda è la coda del cavallo della morte. Per cui chi dipinge qui sa dipingere sul serio, ha una mano estremamente esperta, conosce benissimo la pittura toscana, e ha un'influenza legata a Pisanello, direttamente o indirettamente. Molti di questi copricapo sono di fattezza francese, questo per esempio. Pensate che fu una moda, dice così la leggenda, importata dalla madre di Francesco d'Assisi, che era una francese. Questo modo proprio anche di chiudere la parte superiore con un doppio velo. Sono tutte diverse tra di loro, sono, vi ripeto, tutti ritratti. E il cavallo della morte è interessantissimo, perché anche questo è uno studio anatomico approssimativo, naturalmente. È proprio un cavallo morto, perché addirittura la lingua di fuori. Cioè, nonostante cavalca. E guardate con quanta cura ci viene dato tutto il costato, tutte le costole di questo cavallo, che riprendono in un certo senso, no, l'andamento della criniera e anche proprio le onde della coda. È una morte arrabbiatissima, che usa proprio un arco da guerra, perché questo non è un arco da caccia, eh? Questo è un arco da guerra, ci sono varie tipologie. Tra l'altro difficilissimo anche da incoccare. Ecco, e qui è bellissimo perché, beh, prima di tutto qui non abbiamo né morti, abbiamo queste frecce che stanno arrivando, ma loro sono ancora tutti integri e stanno contando. Abbiamo questo liutista, questo suonatore di liuto, che sta suonando, ma in realtà sta accordando. Nella dicitura antica, accordare uno strumento si dice temperare uno strumento. E la temperanza è una delle virtù, no? Forse stanno parlando di temperanza, di equilibrio, perché questa azione di accordare, di temperare, è strana, perché io mi aspetto che stia suonando, non che stia aggiustando l'accordatura. La fontana, vi ripeto, è una fontana esagonale, poco si presta, dovrebbe essere ottagonale, perché è la forma appunto del battesimo, dell'eternità. E intorno abbiamo solo figure maschili, nessuno sta toccando l'acqua. Questo che dà di spalle è un falconiere, il braccio che non vedete regge un falcone. C'è chi ritiene che la data corrisponda del cielo palermitano, riconosciuto dalla posizione dei fiori, che corrisponda proprio alla nascita o al matrimonio, non ricordo con esattezza, proprio di un nobile palermitano che era signore di Palermo all'epoca, per cui preposto dal mondo spagnolo. Vero, gli spagnoli reggeranno Palermo dopo l'epoca normanna. Eccolo qui il falcone, vedete? Per cui un aristocratico. E guardate appunto la stranezza di questo cielo, proprio increspato come se fossero delle posidonie, mi pare siano queste alghe che sono tutte incredibilmente plissettate, pieghettate. Eccole qui, con tutta questa vegetazione e un'infinità di fiori tra questi personaggi, veramente particolare. Vi ripeto, è interessante perché la posizione qui del cavallo della morte e parte dell'impianto è incredibilmente analogo al carro della morte, al carro di fieno di Hieronymus Bosch. Torniamo a vedere il nostro trittico. Eccoci qui. Adesso, secondo me, vederlo dovrebbe esservi più facile. Noi abbiamo il grande carro, prendiamo solo questa parte centrale, poi di che cosa sia lateralmente lo vedremo la prossima settimana. Eccolo qui. Noi abbiamo questo grande carro di fieno con un corteo che lo segue e un corteo che lo anticipa. Abbiamo tutta una serie di situazioni, tra cui un assassinio, gente che si picchia, che si spinge, e nella parte bassa abbiamo una sequenza di situazioni anomale. La parte superiore, che era più facile, grande nube con il Cristo risorto dentro a una mandorla di luce che è anche un triangolo, vedete? Ricorda un po' l'occhio che da qui in poi, più o meno a livello cronologico, andrà a rappresentare l'occhio di Dio. Sotto, subito sotto, noi abbiamo un paesaggio sempre ameno e il carro nella parte superiore ha degli ospiti. Vediamo un po' chi sono. Vediamo qui che cosa ho messo. Cristo risorto, i paesaggi, qua, vediamo. Coloro che siedono nella parte superiore del carro, non a caso, sono un convivio, sono un allegro ritrovo. Abbiamo un cespuglio che ci ricorda vagamente l'albero che abbiamo lasciato sulla nave dei folli. Abbiamo la nostra solita brocca di vino appesa, la civetta che assiste a tutta la scena, un incontro amoroso, probabilmente clandestino, e un piccolo concerto. Abbiamo una donna, un'aristocratica probabilmente, o comunque una donna altolocata proprio per la quantità di tessuto che ha quest'abito, che sta leggendo della musica. E un liutista, un suonatore di liuto che sta suonando. Non solo, ne abbiamo anche un altro strumentista, guardate un po'. Un diavolo mostro che sta suonando il proprio naso ed è una sorta di oboe. Perché non lo chiamo flauto? Perché questa parte sotto è svasata, per cui ricorda più un oboe. Ha un suono nasale, non a caso l'oboe, no? Sembra un po' una papera, suona così. Per cui stanno cantando e suonando. Abbiamo uno strumento a fiato e uno strumento a corda. Uno strumento aristocratico legato all'amor cortese, alla poesia, al madrigale, e uno strumento demoniaco legato invece proprio all'inferno. Leggono una sola pagina, questa non è una stranezza. Esistono proprio delle pagine musicali dell'epoca pensate per essere lette da parti diverse. Lo stesso foglio si posava su un tavolo ed era scritto in modo tale da poter essere letto dalle persone che sedevano intorno al tavolo, per cui con pentagrammi sui quattro lati del foglio. Questa quindi non è una stranezza. Il punto è, questo è un incontro positivo e un incontro negativo? Perché abbiamo uno strumento cortese, una dama che canta, ma questo diavolo è presente. E se questa coppia fosse ciò che accade dopo? Dopo questo incontro musicale, vi ricordate che nella lussuria avevamo gli strumenti musicali a terra e loro due che poi amoreggiavano? Teoricamente allora questo diavolo è la tentazione, no? Suona il flauto delle sirene, suona il piffero, per cui è come se fosse appunto la seduzione che si insinua con questi che stanno facendo musica insieme. Gli amanti. No. Vediamo il carro. Il seguito sulla sinistra è costituito da personaggi a cavallo e personaggi a piedi. Abbiamo papi, vescovi, principi, duchi, abati, anche qui non si fa mancare niente, abbiamo un ortodosso, un francescano, qui dietro abbiamo dei benedettini, lo capiamo dai copricapi, vero? Non ho la magia della lettura, a seconda del tipo di cappello, di copricapo, di cappuccio, sì, sappiamo l'ordine. E questi sono sulla sinistra, per cui seguono il carro. Abbiamo dei poveretti, dei poveri, e abbiamo anche qui etnie diverse. Questi sono musulmani. sono tutti a caccia di un ciuffo di fieno. C'è proprio l'assalto al carro di fieno. E tra loro si picchiano, si azzuffano, guardate, pur di riuscire a prendere un po' di fieno dal carro. Il carro, tra l'altro, ha la capacità di passare sopra a delle persone, schiacciandole. Si tirano fuori i coltelli pur di riuscire a rubare un po' di fieno. Ecco qui, guardate, ci sono proprio delle persone che finiscono sotto il carro. E anche le donne sono veramente feroci, e c'è un monaco che cerca di fermarla, questa donna, che sta picchiando violentemente un uomo che probabilmente l'è passato davanti. Questo è un turco che sta rubando fieno. Qualcuno resta appunto travolto proprio sotto le ruote, nella foga, e coloro che trascinano il carro, per cui chi sta davanti al carro, sono dei grilli, sono dei mostri. Sono, guardate, uomini anfibi, per metà pesce, per metà uomo, per metà topo e per metà uomo, rospi, uccelli. Alcuni di loro hanno delle chiavi legate al naso. Sono tutti incatenati e stanno proprio tirando il carro. Sono veramente esseri mostruosi, anche qui. Guardate, ritorna l'uomo albero con le braccia trasformate in rami, vedete? Che già abbiamo visto in altre situazioni nel trittico appunto delle delizie. Ma perché rubano fieni? Poi ve lo racconto, prima ve lo faccio vedere tutto, ma lo sappiamo perché. Il fieno di fatto rappresenta niente, perché il fieno non serve a nulla, è foraggio per gli animali, no? È erba bruciata il fieno, bruciata dal sole. Per cui erba, se ci pensate a livello simbolico, bruciata dal fulgore di Dio. L'enorme luce di Dio brucia ciò che non è utile, l'inutile, ciò che non deve essere raccolto. Si foraggia per gli animali, per i letti, per i cuscini, ma non ha un'utilità. Noi non ci cibiamo di fieno. Sappiamo che in Olanda nel 1400 vi era proprio una sorta di di festa legata al fieno. Una sorta di festa legata sempre nel periodo che seguiva la mietitura. Ricorda un po' la festa delle segale dell'epoca tardo-romana. Veniva proprio portato in giro per la città un carro di fieno. Ognuno cercava di prenderne un ciuffo perché era di buon auspicio, diciamo così, per il raccolto dell'anno seguente. Il punto è però che qui probabilmente Bosch lo legge come se fosse il carro della seduzione. Probabilmente per questo abbiamo il concerto nella parte superiore. È un carro che induce a desiderare ed avere ciò che il carro trasporta. È una sorta di carro delle tentazioni. Tutti raccolgono fieno, ma di fatto raccogliere fieno significa raccogliere niente. Abbiamo delle monache addirittura che ne hanno presi talmente tanti ciuffi da avere delle vere e proprie cataste che insaccano, conservando questo fieno. È come se conservassero degli averi che di fatto non hanno nessun valore, sono niente. Si ammazza per avere questo fieno e quindi si ammazza per avere niente. Si uccide per rubare dalle mani il fieno che è stato tolto da questo mucchio, per cui si uccide per niente. La cosa che si slega o che perlomeno ci parla di tentazioni è quello che accade nella parte sottostante, perché oltre a queste monache che raccolgono, noi abbiamo un prestigiatore un incantatore, uno che legge il futuro, qui, proprio ai piedi di tutta questa situazione, di fronte a un giullare che sta suonando non a caso una cornamusa, per cui ritorna questa idea dello strumento del diavolo. Sulla sinistra ritorna il pollo allo spiedo e l'aringa appesa. Il calderone che abbiamo lasciato, che abbiamo visto anche in Bruegel, e qui abbiamo una donna che sta lavando un bambino, ha un bimbo nudo sulle ginocchia, a pancia in giù, e lo sta lavando. Ma la cosa peggiore in tutto ciò è che noi qui abbiamo un ladro di bambini. Ne ha uno dentro al cappuccio del mantello e uno lo sta circuendo in questo flash che ci viene dato, e in primo piano noi abbiamo una donna che sta vendendo il proprio figlio. Il nesso con il carro di fieno sinceramente sfugge, perlomeno a me. Può essere il simbolo del denaro? Può essere, ma perché adescare un bambino? Forse poi per venderlo, perché si rubavano i bambini poi per rivenderli alle coppie magari aristocratiche che non avevano eredi. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Anzi, se notate, è la stessa donna, no? Ha partorito, sta lavando il bimbo e lo vende. O è una nutrice che si sta portando via il bambino. Intorno abbiamo maiali, porcospini, cioè tutti quegli animali che appartengono sempre alla sfera negativa. Ecco, guardare bene, scusate, vi ho detto che è un pollo. È una testa di cinghiale quella che sta cuocendo sullo spiedo. Ma chi è che vende il bimbo? Una ce l'ha in braccio. No, c'è proprio uno scambio di monete, eh? C'è uno scambio di monete qui. Ma il bimbo è attaccato alle gonne del... Questo è un bimbo che prende le gonne di questa donna. Ah, là sopra c'è un altro bimbo ancora. Sì, c'è un sacchetto qui di denaro. Sì, questo è il bimbo che viene circuito proprio da... No, ma a meno che non sia la storia dello stesso bambino, ma è difficile. Gli assassini, appunto... E poi c'è questa scena del prestigiatore, la firma, il frate e le monache, c'è questa situazione appunto in primo piano delle monache che pregano, però si stanno anche ubriacando e raccolgono fieno, e abbiamo la scena appunto di questo, che non è questo, di un prestigiatore, vi dicevo, in primo piano, che sta, vediamo qui la parte inferiore, questa, no, qua. Eccolo qui, questo, che è un prestigiatore appunto, un imbroglione, uno che fa il gioco dei tre barattoli. E Bosch aveva già dipinto un prestigiatore nel 1475, eccolo qui. E ci dà un personaggio incredulo che guarda, viene distratto dal prestigiatore, che guardate non a caso ha una civetta dentro il canestro, e mentre quest'uomo viene imbonito, viene distratto, un altro che sembra essere ancora più distratto gli sta rubando dalla borsa il denaro, cioè proprio glielo sta estraendo. E ha tutta l'aria di essere a metà strada tra un dottore, vedete, agli occhiali, sulla punta del naso, è distratto, guarda verso l'alto, ma porta vesti da monaco. Eccolo qui, domenicano per di più. Come appunto se questa distrazione fosse stata calcolata, pensata apposta per derubare. Di solito, no, questi prestigiatori avevano dei soci intorno per così borseggiare i distratti. Per cui, vi ripeto, una situazione complessa questa del carro di fieno, che noi riusciamo a capire se andiamo a vederci i trionfi della morte, se no non riusciamo a capire perché di tutte queste situazioni così drammatiche intorno, ci giustificano i seguiti. Dobbiamo andare a vederci la tradizione popolare che ci dice il tipo di feste che venivano realizzate all'epoca, e ciò nonostante abbiamo degli elementi che ancora ci sfuggono, come nella maggior parte delle opere di Bosch. Se siete d'accordo, io mi fermerei qui, perché secondo me siete morti. Per quanto riguarda gli altri, ah già, no, non dovremo, trionfo della morte, siete morti, non è il caso. Per quanto riguarda i pannelli di sinistra e di destra, ne parliamo la prossima settimana, ma vedrete, ne parliamo rapidamente perché sono due situazioni che già conosciamo. E chiudiamo, così avete l'anteprima, con la tavola dedicata all'aldilà. Non è colpa mia. Preferite il Calvario, la salita al Calvario? Facciamo la salita al Calvario. Poi facciamo tutti e due. Senti, voglio chiederle, per l'esame, che è il 16, giusto? Sì. La malatesina che bisognava portare 20 giorni prima, una volta vista l'iniziazione? 20 giorni, anche 10 giorni. Anche 10 giorni prima, sì. Quindi sarebbe per la prossima lezione. Per sì. Se preferisci vuoi mandarmela via email, va bene? Sì, magari sì. Ce l'hai l'email? Se è quella che ha dato a inizio corso, dovrei. Sempre quella, se no sono anche su Facebook. No, non ce l'ho qui. Non ce l'hai Facebook. Sarai punito per questo. E deve essere comunque il raffronto tra un'opera di Bosch e una di un artista del Rinascimento italiano. Sì, grazie. Lunga quanto più o meno? Discrezione vostra. Posso chiedervi di accendere la luce, per favore? Grazie. E qualche suggerimento su un artista, per esempio, possibile da paragonare? Non amore. Okay. Comunque l'importante è che vedendo queste opere. L'importante è che sono opere che non abbiamo trattato a lezione. Esatto. Giusto? Così l'analisi la fate proprio voi. Okay. E l'esame parte da lì naturalmente. Adesso vediamo, vediamo quanti sarete, ma io preferirò, è una cosa che preferisco sempre, separarvi dal triennio.